aspetta un attimo che non capisco quello che dici, ho detto la faccia alla televisione. Dimmi. Ti dice Tassini. Tassini. Sì, non te ne siete. Ce l'ho uno in campagna a metà. No, e anch'io. Faccio 4. Non me ne tengo però. Vabbè, novità ci abbiamo. Sì, novità, che novità. Nessuna novità. C'era la televisione, è troppo alta, non capivo quello che dicevi. No. Sei uscito stamattina? Cosa? Sei uscito? Sì, sono uscito un po' e tu me ne sono tornato. Sono uscito però a chiedere da una reattiva. Non conosco le vicine, sì, è brutto. Ehi, hai visto? Mi ha comprato per la, come si chiama, per la comanda là, per il Voltaren. Ah, ma rimasi in confezione mani per la, la base. Sì, in formato famiglia la base, in allora. La Voltaren è un uccello, quella che ti ho detto io. E io? Sì, quella già fa bene. Il tempo ci vuole, ma già fa bene. E infatti. Allora, e lui? Voglio la stanchezza che io anch'io stesso c'ho un po' di mal di schiena sotto, vabbè, ma via è permanente la male, come me la giù di lì. Questo telefono è un calzotto, cosa hai detto, questo telefono? È un calzotto, sempre ai giornali cade, si cade un primo. No, io gli ho messo i manuali di aggiornamenti, li faccio io, capito? Ma li va, me li segnala che sono degli aggiornamenti, li faccio io, non li lascio fare in automatico, perché magari poi fa degli aggiornamenti che mi fa più casino che altro. E infatti, per trovare un modo di sistemare, esatto, devi andare lì e metterlo nell'impostazione, metterlo lo spunto automatico, lui l'ho tolto, lo faccio io. Vecchio, vecchio sta diventando. Allora devi già mal rilassato, ma via, allora fatti. Ma già un po' qualche anno che soffro di questa lombosciatacia, deve essere umidità, le cose, capito? Per la moglie. Ecco. Sì, certo, non mi potete lasciare dire, certo, che ero mesi che non riusciamo a vivere. Quindi adesso c'è mia moglie, c'è così. Per carità, ma via, canto due, dolore, e basta. Certo. E ecco, io non è che sono arrivato a 60, li ho superati. 63, questo marzo scorso. E la gente ha fatto due giorni già fatti. Io ancora no. Però è così. No, ma che lavoro facciamo? Fra, cosa pensi tu? Che hai abusato? Le cose che si muore, parlare di torre, carregheggi, vai a destra, a sinistra. Sono tutte cose che anch'io mi metto a fare, anche se voglio non le faccio perché non apro in carico, però che non è da fare, anche ieri, cioè venerdì, mi sono occupato a dare una mano a tirare dei cavi, capite, stiamo facendo delle linee nuove, adesso ho avuto paura occhio, lascia perdere. E così e basta. Mi vendo caro, mi fa Natalino a due di china. Natalia lo sente a Franco. E io avevo questo. E poi non ti intendo bravo. Stiamo aspettando l'antenna fra la lontana di Natalino. E la questa settimana speriamo che la vogliamo andare via. Così aspettiamo, se la vita più. Ehi capo, era una che non sono anche in nome per gestione, almeno lo sentirò. Sì, ma ci sono giorni che lo sento, ma oggi c'ho un po' di QRM, cioè, non ho capito perché, però c'ho un po' di QRM. E non riesco a tenerlo fuori. Comunque dai, sono in tono di Natalino, se non mi sente me lo sono detto. Ciao Natalino, però io non riesco a capire quello che dici, no? Sì, riesco. Con pazienza. Non si può piazzare, abbiamo detto, non si può piazzare, io ho fatto il sopralluogo. Ci sono un po' di difficoltà, ma già la piazziamo a Matteschi, non è problema. Questo tetto non si può salire, quindi dobbiamo lavorare dalla facciata, capito? Fra. Ci vuole più attenzione, è un po' più rischioso, però ce la piazziamo lo stesso. Il pomeriggio, no, mi venuti, sì, ora poi sono uscito. No, sono uscito stamattina alle 5, sono uscito, ma certo, parimo me e me, parimo che me ne è in travaglio, e sono stanco questo. Sono venuti, poi ho venuto, ho preso, non basta, se non mi metti più lunga, non ci vado più, poi sono stanco, proprio stanco, perché è diventato un posto di lavoro non più normale, ma fare in accorto mi pare. Mi sono copriato un capo e detto, l'ultimo giornaliero, perché io ho durato sono in mannelli e non bravo su più a seguire un ritmo di pure di luce. Non basta, sono l'ultimo giornaliero, ma ancora non mi ha detto lui. Guarda di mandare il rientro. No, io me ne sono uscito 2 anni fa e 2 anni fa, ma troppo massacrato, no? Dove vai a fare la notte, cioè non sei più un ragazzino, capito? Hai mille esigenze, no? Poi chiama il peso tutto dolore, ma la natura ti fa tutta la notte e trova niente, no. 2 anni fa me ne sono uscito io. Sono uscito dai turni e basta, faccio dalle 7 alle 1.25, basta, tutti lì. Preferisco, guarda, fare una domenica sì, una no, che fare i turni, fra, non me ne frega niente, capito? Però la domenica è tra le 7, c'ho mezz'ora, quindi non me la fotti nunca, non mi interessa, ma turni mai più, la prima volta, fare un viaggio e tutto, era una cosa allucinante, non è una cosa per me, no. 2 anni fa io l'ho messo per iscritto, però, capito? Che appunto volevo essere tolto dai turni, altrimenti mi cadevo a casa, e diceva, adesso mi dia, mi figuria di nulla, un poco male di me, quindi sicuro. E quindi hanno accettato. Poi inizialmente insomma ci sono stati un po' di casini, però poi avevo fatto un cambio con uno più giovane, che era giornaliero, e quindi non mi ha fottuto a né delle linee più e né venuta. Quando non ce la fai, niente da fare. Che pure i soldi non è che sono in meno, sono più o meno gli stessi, perché noi di giornale in turno facciamo 18 giorni, facciamo, mentre i giornalieri ne fanno 22, cioè gli incentivi che ci danno, ce li danno bassi, questa lista di entrata ce la saranno bassi, al 15% la notte, queste cose qua. Quello che perdo dai turni me lo recupero in giornata e faccio un più, non basta, e lo stipendio è sempre lo stesso, non cambia. Sì, vabbè, io c'avevo un altro tipo di contratto, era un po' più alto il mio, capito, c'era la maggiorazione del 35%, c'era il notturno, però non mi interessa, assolutamente, non l'ho fatto per anni e poi non ce la facevo più, e basta. La settimana, nel pomeriggio sono libero, la riduzio da casa, chi c'è una è più di coraggioso, quindi parto da lì, c'ho sede lì, la macchina ce l'abbiamo insomma se riesco a rientrare. Ciao cara, non proseguo più tutto, dai. Ciao anche a Natalino, se mi sta ascoltando. A più tardi, se riesco a entrare entro. Sì, a te, mi fa piacere, siamo qua. Ciao, buona serata. Avanti Natalino, ti saluta Franco. Sì, già l'ho sentito. E lui che non sente a me, è sordo. No, c'è un po' di problema, c'è il suo vento, il venticello, capito? Lui c'è una zona alta, quindi c'è un po' di problema, se no a volte ti sente. Non è problema. E io gli ho fatto apposta di che la dovete sentire. Signor Gigio, tu. E Marco, non senti, giocato a Pignara. Di nudo. Sì, sì, sì. Se sentite Eugenio, dove sei rientrato al lavoro, non lo so, è già da venerdì, ma non l'ha già maturato il tempo. Perché non stava lavorando? No, è malattia, l'ho operato al ginocchio. Guarda un po'. Bene, che mi hai inteso, domenica è entrato, come vai? O sabato, che stava salendo la sassa. Ehi, allora. Sembra sabato. Mi sembra sabato. Ci siamo sentiti che stava salendo a Tattari. E poi non ho più sentito. Che te devo dire? Andare. Ma vedi un attimo, ma c'è sempre questo vento che rompe le scatole. Una rottura di scatole. Nuove giornate però, avevo qualche cosettino da fare su, sotto al tetto. Uno spostamento devo fare per tirare su il motore rotativo. Non ha giù una gana, va sempre il tuo vento, è fastidioso, ma devo aspettare che non ci sia proprio nessun tipo di vento. E infatti cosa hai detto quando è calmo? All'inizio buia da prima mano che vi aspetta. Ho già piazzato, funziona perfetto. Solo che non lo posso far girare. No, non lo posso far girare perché mi tocca la mandorla. Capito? È basso. Non lo posso far girare, solo un millimetro di braccio, di due di due. Non lo posso far girare, devo spostare la mantova sull'altro lato, se no non fa, poi devo togliere la manovanda dei 10 e la devo mettere sopra il sistema, non basta, non devo fare altro, devo fare solo questi spostamenti qua, però ci vanno giornata dove non c'è vento, perché su siamo a 40 metri. C'è vento, vedo gli alberi che si muovono, le avvolgibili, capito? E quindi, domenica mangiano la vedova, però io stavo lavorando. Oh signore, mi stuccano, mi piace la scena. Era già con me, di oggi. E di tutti i colori mi ha fatto. Uscì, non mi viene l'acqua, è cucato nella sua brandina. Ragione, io ho già agitato e fa poco le tocca mangiare, e quindi capito. Chi non può andare a Brandina? Casa, detto vai sul Brandino, vai, cammina con i cazzi, e poi ci appanta in atto, non si fanno più gli altri, se non lo sanno lui. Ehi, fai vedere un video. No, lui ci sta volentieri nella... Ehi. Non è proprio da migliore, sta sempre con il cartolino, non sta per terra, capito? Sta sempre lì nella sua brandina, a parte terra, di bianco, cioè, sempre bucato. Mi piace un bel stare, anche perché è morbida, capito? Quindi sta bene. Ma non tiene da provare. Poi, come dice a brividi a me, ma io posso stare con lui. A volte lo porto, lo metto la brandina vicino, si addormenta lì, però non mi catalisci, manco ne intendo. Questo qui è lo stesso che vuole dormire vicino a me sempre, e non ci vuole andare al brandino suo. Quindi è la scompara di buca, la massa, guarda, è veramente bello quel andare. Perché volevo stare vicino al padrone. Ma se Filippo qui, cioè io gliela prendo, gliela metto vicino al letto, in terra, no? Allora lui viene, si può stare lì. Se no se rimane nel salone, infatti non è detto verde, ma non è detto verde. Capito? Se vuole prendere la bandina e portati la lì. Ma no, non bisogna abituarlo però. Non bisogna abituarlo. Vabbè. Proviamo se c'è qualcuno che vuole picciare il microfono. Non piccia nessuno. Questo pistello a me mi sa che se ne sta andando con quelle donne di malaffare sempre, non c'è per quello. Io ti dovevo dire, magari era la piazza dei Segni, ha preso un po' di carote, capito? Un po' di verdura e l'ha portata a Catamona, amica sua. Allora, sì, cosa mangia, come fa a mangiare? Lui è di buon cuore. Oggi invece era andato a piazza dei Segni, ha fatto la spesa e gliel'ha portata, capito? Chissà Galeotta. Magari rimane sempre su di lui la verità, però magari era anche solo per il caffè, non pesa, è generoso, e non si impicca prima della delirina. Ma si annega prima della delirina a Ghisa, mamma mia, come sto. Due cosette, gatto, la salita appena un garrello, ma come dire, le sono passate. E a chi era comunque di 50 euro, invece ne aveva 20. A me mi volete, buonasera. Uè, c'è un rincoglionito, cos'è? Sto provocando a Marco già, però non entra. Ha diritto a Natalino che è andato a fare il pesce stamani. Piazza dei Segni, carote, pomodori, capito, verdura, frutta. E l'ha portata quella galeotta che ha detto che è amica sua, quella che sta a Platamoa. Ah, ah, ah, quella che c'è in carica. Quella c'ha quattro carri, sono un bel magno, quindi si aggrediscono in greco, no? Che vanno tutti in greco, ma tipo Capobranco, c'è quello che chiama. Infatti è della Capobranco. Sì, è della Capobranco infatti, è amica di della Tappignana, amico, è manda di saluti sempre, manda, capito? Ieri è sceso con la mamma, gli ha portato il caffè, gli ha dato un euro e non si impicca prima di andare di là. No, a me mi ha detto che si è invitato il caffè, io ho fatto finta di non si impicca, niente più di usa. Quando mi sta facendo la posta a portare la casa, non è capito? Che fa può fare la legge, la papà nella tettoia del tram. Ma non va bene così, capito? Perché la tettoia del tram è stata fatta per la gente che deve aspettare l'autobus, non populisti raietti come te chissà, capito? Se fosse stato vigile urbano sarei andato e l'avrei fatto andare via da lì. Perché quelle tettoie sono state fatte e pagate dal comune. Dal comune di Porto Torres, no, anzi quello del comune di Sosso, mi pare, quella rotonda lì. Sì, comune di Sosso, capite? Con i soldi della cittadinanza di Sosso, per far sì che la gente d'inverno non si bagni, invece è occupata Edda, capite? Ma va bene, avanti Natali, vai per Gianni. Ciao, buonasera, ben entrato. Ciao Natali. Io mi ero il colloquio di Marco fino adesso, poi mi è venuto in mente che avevo messo il pollo a fuoco. Cazzo, non è cambiato, pollo a fuoco, io ho capito come c'è a correre, come c'è un macchio, arriva a casa e l'ha giurato. Cazzo, l'ho già aspetto, il flash come se fosse acceso, no? Però ci sono tornato, perché è stato postato. Quindi può succedere già, cosa quante volte io mi capita di tornare dietro al lavoro. A metà tempo, magari anche l'altro giorno, me ne sono andato via da Parigi. Stavo facendo una manovra di supero di fanghi dal digestore all'ispessitore. Sono come al Tudu. A metà strada ero già quasi a Vidalba. Aiuto, ma lo spazio. piazza la Cinesca, in Sciumaria, amici miei, nel spessitore, mi dice di trovare un carriera, sotto la pietra invece l'avevo chiusa, capito? Ti vengono questi flash. Perché che fai? Fai caricamente le cose, no? E poi magari ti vengono questi flash di cosa, un cazzo di all'orecchio, che mi sono tornato, cosa è successo? Ti hanno lasciato il polo al fuoco. La macchina, una saetta che arrivi da casa, e poi restaurato. No, ma mi capita, non so perché. Penso che abbia fatto, che abbia lasciato qualcosa non finita, invece vado lì, tutto chiuso, sta a posto, tu non vai in una mare, tu non vai dopo, ma pigliendolo sei il bidule. Cosa vuoi che ti dica? Vabbè, pazienza. Avanti, tratta lì. Via, quella è l'età, è la vecchiaia. Ma un po' di sicurezza, magari, e anche il fatto che fra le cose meccanicamente non ti rendi conto di quello che fai. Ehi, sono dimenticante, sono. E però, cata, chi su la dimenticanza di Claudio poteva fare casino, perché certo sono cose pericolose e quelle. No, casino, ma mette le mani giù, non lo fai così. Se escono i fanghi dal letto di accumulo e vanno a finire nella strada, ma restano. Se lo battuscicano, non lo fai così. Assolutamente molto pericoloso. Capito? Molto pericoloso. E in realtà io sono avanti alle 6, arrivo a solo, sorprendo tutta la documentazione giornaliera delle 6:40, la distribuisco, la devo organizzare, devo fare, c'ho 10 impianti grandi, ma grandi però, 10 impianti da 1.400, 1.500 litri metri cubi al giorno, devo seguire tutte le cose, c'ho 10 sollevamenti, devo farmi tutte le letture dei contattori dell'Enel, un sacco di cose, cioè qualcosa ti sfugge anche lì, non è che non penso di avere questi voti, è proprio il troppo da fare che ho, che a volte mi dice, ma l'ha giovato o l'ha giovato, capito? A volte mi pongo la domanda da solo, poi magari mi accorgo, diciamo, Cami, che ti ho visto, sei passato, già sei andato, capito? Proprio perché ne ho troppe cose da fare che a volte mi dimentico. E vabbè, ma sarà, piano piano, come devo dire. Già mi scrivo un grazie, sono sempre a manetta, ragazzi, la stessa oggi ho baciato, manca pesato come gioco, io ho il telefono in mano senza cinghie attaccate, ti ho baciato la batteria dei carabinieri, dove tenere il balice a manetta, ma come non mi hai perseguito? E allora, dice, adesso non vai spigonzare, ma che domanda, non vai piano, vai piano, io ho quei tetti, mi rompe tre palle, sali, scendi, a tante volte mi chiamo, adesso sono a vendata, cavolo, invece a vendata, ma come ti puoi avvicinare a 30, sto salendo, più, a radio, ma come conosci la macchina? I carabinieri di Malesi, 30, sono quella zona lì, siamo qua, tante voce, mi hanno avvisato un sacco di volte, erano fermi lì all'incrocio di Isola Rossa, ma lì non c'è il piede troppo pesante, e ma c'è sempre in fretta, sono i cerchi di andare piano per favore, e noi ci ha tagliati un passato, era un telefono, ma era una macchina blu, e poi la carità ci mette in fitta a carabinieri, isso Maria Gatti. Già, con tutto il cuore, te lo dico come fratello, li ho sempre odiati con lui, infatti ci mandavo sempre a mia moglie. Vai, tu vai, dice, ma è possibile che i professori a te non te debbano conoscere, meglio che non mi conoscano, vai tu, io mi stufavo a aspettare lì, mamma mia, ragazzi, poi a prendere le condoglianze, ragazzi, beh, carità di Dio. Devi subire. Io sono più gastronomico, ciao Marco Rattabignano. Buonasera a tutti, mi sto alzando adesso. Ma andateci al mercatino a comprare la frutta a portare l'amica tua a Pratamona? No, ma perché gliela devo portare io? Ci pensano gli Hells Angels, come si chiamano? Gianni lo sa, quelli col baschetto azzurro a darle da mangiare. E poi non è amica mia. Perché dovrebbe essere amica mia? Se vai a trovare ogni volta che vai a Platamona, scusa, l'hai detto tu che l'hai portato anche la coperta, ci aveva freddo. La coperta? No, ma buffonendosi. Io al massimo le do un euro per il caffè quando richiede. Altra coperta è. Fa vuole dare a me i soldi, lei a me, altro che coperta. Ma lo sai quanto le danno a quella lì? 32 euro al giorno, al giorno, se mio fratello me l'ha detto. Ma non danno io così, al giorno o al mese? A quella lì? E per fare cosa? Per fare la barbona in strada? Chi di negri cosa pensi di facile? Addirittura una stadia a Padoletta, che sono ospiti di questo villaggio di Padoletta, che siete un casino in Chivi, già l'altro giorno hanno messo a fuoco una palma, c'erano i vigili del fuoco prendendo tutti i nomi. Amicimi, l'altro giorno ce n'era uno telefonando, Marco, e ci aveva un telefono di ultima generazione che manco io me lo posso permettere. Quindi le danno 30 euro al giorno, che sarebbero 900 euro al mese. Allora aspetta che piglio la tenda, mi butto anch'io per terra a Platamona, aspetta. Ma non lo sapevi perché che questa comunità li sono pagati, quelli che ci hanno promesso il giorno per 30 euro da lì. Ma cosa pensi tu? Mi fate una gratis, no? Capito? Si tengono a parte loro, il resto lo mandano alla famiglia. Capito? E tu c'è una concita in busciacca, così funziona. Così funziona, caro mio. Vai Natalino. Ma quella è italiana? Beh, c'è italiana, è la matessingosa, Bisogna vedere cosa c'è sotto. È pagata, chi è pagata. Oh, non ho capito a quale titolo è pagata. Cioè, pagata per cosa? Per stare in strada? Allora anch'io piglio una tenda stracciata e butto lì per terra e mi faccio 900 euro al mese. Cazzo! E il campeggio pagato, che cazzo? Vabbè, poi mettete d'accordo con lei e vi mette in due lì, già ci state. E magari di notte vuol fare roba. Passa via! Esce via! Prima da indicare il caffè e da lui la bimbo, se gli dimostri di brutto di acqua e cosa. Immagino che già. È ingrato questo ragazzinare. Allora, allora, magari vi scaldate, insomma, c'è anche l'acqua vita, c'è l'acqua vita nascosta la notte, capito? A te che ti piace fare il routine, già te lo fa fare lì il routine. Se ti sei posennato, lui sa, uia uia Marco mio, senza che l'aria ne metti tu, vai bra. Mi ho messo molto fracco, vuoi che prendi Marco? Sarà Valerio, no? Valerio, sei tu? Ma se c'ha 70 anni, c'ha, quanti ne ha? Ah, quindi lei ci prende 900 euro al mese e chiede a me, disoccupato, un euro per pigliarci il caffè. È il colmo, eh? Perché ti ha visto, dice, questa è una bella persona, ciao Valerio, bravo ragazzo, capito? Io la faccio la pipistrello, dice, a vedere se riesco a fregarle un euro, che aspetta, non bisogna di cane da tutti, mi dici si mangiano, Marco, non c'è andare al buio lì, no? Vai sempre quando c'è la luce, non so manco dove, sono anni che non c'è da quattro mora, forse da quando era, c'era stato quel problema alla rotonda, non ci sono più andato, perché mi fa veramente schifo quel posto, mi è stato l'abbandono, il degrado proprio allucinante. Quindi da Porto Torrese che l'ho vissuta a Platamona io, proprio da ragazzino, vederla in quello stato mi fa veramente schifo, per carità di Dio. Gianni, ci sei ancora? Io andavo a chiamare da parte, figurati, adesso fai quando mi senti. Andavo con la rotonda che c'era il bar, ci parlava di la notte. Lui ha, uno di voi ci sono andato. Che mamma c'era la cabina lì, figurati. Figurati tu, io ho conosciuto Lido Iride proprio aperto, con scoprono anche entrare la gente che c'era, capito? Era da sì, proprio conosciuto, si avvicinano. Ma a parte quello, lì, ma anche verso la torretta è un degrado proprio allucinante, da quando hanno messo fuoco lì a livello di Platamona, quel litorale fa veramente schifo, è in stato di abbandono, non si può vedere, guarda, assolutamente. E beh, va lì, è colpa tua, io ti ho mandato anche un messaggio, dove si sta venendo a Sparagi. Ciao a tutti, dai, ciao Valerio, ci sentiamo che devo andare, dai. Hai colloquio di mio figlio, dai, che devo sentire mia moglie che deve andare a Bruxelles. Ehi, un altro giorno, ciao Valerio, ciao a tutti, dai, buona continuazione. Ah, ecco perché stavate parlando dei colloqui, Gianni deve andare. Eia, ciao già, dai, sentiamo. Spero che ti sbrighi presto, così riesci a rientrare anche. Comunque Claudio, io ho paura che la rotonda rimanga per anni e anni in quello stato, perché come avevi detto tu, già non hanno soldi a pagare quel ragazzo che era rimasto sotto le pietre, non hanno soldi nemmeno a pagarlo, a risarcirlo, figurati se hanno i soldi a rifare la rotonda, boh. Finirà come Lido Iride, mio, ho paura, perché con le amministrazioni nostre la vedo brutta. Io conosciuto così in causa in un contesto così di lavoro, ho conosciuto il perito che è un ingegnere di Sassari, che a volte collabora anche con noi, mi ha detto che appunto rimarrà per anni così, rimarrà così perché c'è una causa in corso, ci sono ancora delle verifiche da fare, siccome sono molto lunghe, quindi ancora per quest'anno la rotonda di Platamona sarà una galera per la gente, capito? Per i posteggi auto, per andare a fare il bagno, per trattenersi, per tutto quello che era la rotonda, anche nel periodo estivo, quindi la notte si passeggiava, si faceva, è un degrado, io non ci vado perché mi fa veramente schifo, capito? Non era una cosa che ha sempre funzionato, che è stato il fiore all'occhiello di Sassari e di Sorso, vedere anche le provvedioni è veramente assurdo, capito? Ma io l'avevo già previsto, perché lì non è questione di rifare il muro e riempire nuovamente come era prima, mettere le ringhiere nuove, non è assolutamente così, lì c'è da scavare, scendere sotto, perché ho visto il progetto, scendere sotto fino al livello del mare, capito? E riprendere tutto in calcestruzzo e rifare tutto il terrapieno, capito? Quindi non è un lavoro da due lire, non è un lavoro da due giorni, sono anni di lavoro lì, sicuramente. E ancora per quest'anno, che fra un paio di mesi inizia la stagione estiva, sarà così. Quindi, cosa ti devo dire? Mi fa piacere da cittadino sassarese vedere una rotonda, un fiore all'occhiello di tutto quello che c'è stato, vederlo in quelle condizioni, anche perché chiuso il metro lì non verrà più nulla. Hanno bruciato lì del Platamona, che finalmente c'era un po' di movimento, quel litorale fa schifo, a me fa schifo. E quando sono sceso io con i funzionari di Sassari, era piuttosto forse questo al tribunale, se mi dice questo non posso non fare niente. Perché c'è una causa in corso, gira che ti rigira, cioè, tanto c'è un ragazzo che è rimasto guasto, è rimasto invalido, ok. Altri feriti, altre cose, meno male non c'è scappato il morto, immaginati se il tribunale si prende la briga di dire sì, ok, tutto a posto, c'è gente ancora costituita a parte civile, non è dato manco un franco, immaginate già di Duccio, io ando a mare a pigliarmi l'usore e mi negaggio a rotondo e nato, ma buffone dici. C'erano i feriti del tribunale facendo i rilievi quando sono sceso io, c'era l'assessore, la dottoressa, sposa, due architetti, io ho portato l'architetto nostro, ho portato lì, perché c'erano i rilievi del tribunale. Se non li sequestrano non possono iniziare nessun tipo di lavoro lì. Io avevo i cavalori, i cavalli, figurati. Ma perché? perché pure invalido è rimasto quel ragazzo. Certo che sì, certo che sì. È il figlio dell'amico di mio fratello. Certo che sì, è rimasto invalido. Ed è andata bene puro, capito? È andata bene. Hai capito che c'è di a carrozzella quel ragazzo, che è un masso. Il più grosso le ha preso la spina dorsale e due più piccole sono caduti sopra le gambe. Cesso, ma qual era? Quello che nella foto della Nova era proprio in mezzo ai sassi, sepolto quasi in mezzo ai sassi, quello lì è? Esatto, quello che era sotto, e subito ci ho messi tutti a scavare, hanno fatto più danno, capito? Perché l'hanno tirato, invece non dovevano toccare, tanto era vivo, quindi non dovevano toccare, dovevano venire i vigili del fuoco con l'ambulanza per spostarlo, hanno fatto più danno. Può darsi pure. Sì, io mi ricordo che ho visto la foto, c'era lui con le gambe piegate, no? Come fosse rannicchiato. La testa non si vedeva, era sotto i sassi, e poi aveva la schiena con numerosi segni sulla schiena, proprio ferite. Te ne immagini davvero? Tu stai lì tranquillo e ti invalenato la rotonda, roba da matti. Ma era veramente prevedibile o non se l'aspettava nessuno? Non credo che se l'aspettassero, perché quando è marcio dentro, sotto non te ne accorgi. Il problema di questa cosa è che si parlava da tempo, che appunto stava cedendo, stava svuotando, c'era qualcosa che già si vedeva, con soprattutto il maestrale, l'acqua arrivava fino al muro della rotonda, da sempre, da anni è sempre successo così, capito? Quindi ha continuato a svuotare. E lì è stato un caso, una coincidenza, perché nessuno si aspettava che era una giornata molto calda, lì c'è un pochettino di riparo del muretto della rotonda, c'è un po' di fresco, quindi si sono messi un po' di ragazzi lì, l'abbiamo sempre fatto, l'ho fatto anche io da ragazzino, ci mettevamo lì e con le spalle appoggiate al muro, capito? A bere birrette, la rotonda allora era molto più sana di adesso, però da un po' di anni a questa parte si diceva che stava un po' cedendo, tanto allora se vi ricordate un po' il marciapiede aveva delle carenze, insomma si vedeva che era un po' più basso, c'erano dei pezzi più bassi, più alti eccetera, però non se lo aspettava nessuno che cedesse proprio in quella giornata lì dove c'era gente, capito? Perché se non c'era gente non succedeva niente. Sì, forse è stato in inverno il crollo, non ci sarebbe stato nessuno, si spera, invece è caduto proprio in piena estate, proprio. Non sapevo che addirittura ne sedia a rotelle il ragazzo. Sì, magari quelli che mi hanno tirato per levarlo hanno fatto più danno. Che casino, quando succede così è un casino, mamma mia. Oia, cosa volevo dire? Non so se avete letto il giornale oggi, no? In via Gorizia, io per i calcoli ero sempre andato da Migaleddu. È molto molto scrupoloso, era molto scrupoloso, veramente scrupoloso, cioè ti vedeva l'impossibile con quelle ecografie che faceva lui. E oggi sul giornale è uscito che stavano a Nuoro per una cosa ambientalista, non so, e l'hanno trovato morto in macchina, forse il cuore ha ceduto, l'hanno trovato morto in macchina, Vincenzo Migaleddu. Capito? C'è anche la foto, non so se l'avete visto. Tu vuoi essere che mia moglie aveva, perché la conosci lì. Riprendi, va lì. Prova a mandarlo, dai. Prova a mandarlo. Lo devo leggere nell'altra stanza perché è in carica il telefono, perché era proprio scarico. E poi ti dico, dai, tu manda e poi vediamo. Vabbè, Natalino, ma cosa avevi fatto tu? Avevi rinunciato all'acquisto da come si chiama lì? Uffa. Avevi rinunciato all'acquisto? Oppure hai deciso di aspettare? Ormai hai fatto l'acquisto, cosa rinunciarlo, Marco? Ha bisogno di un macchio e un occhio, perché cavolo gli arriva lunedì a avuto problemi, siccome arriva dall'estero, arriva questo caso, il computer a loro gli dava che c'era, sono andati e c'era meno di caso, ecco il problema. Quindi l'hanno ordinato e gli arriva lunedì, mi ha detto. Se arriva lunedì il capo, mercoledì la roba è da lì. E mi ha detto anche se volevo rinunciare, che non volevo aspettare. Ma però ormai è fatta, te l'ho detto. Eia. E dai, speriamo il lunedì, cioè oggi doveva arrivare il capo, così è. O lunedì prossimo, l'altro lunedì. No, questo lunedì. Io ho telefonato lunedì. Ah, ecco, però non ti hanno detto altro, no? Tipo abbiamo spedito, no? No, mi ha passato la persona che ho parlato io per fare l'ordine, quella signorina. Era un po' urgente, la cosa è che il computer a me mi dava che c'era, sono andato in magazzino a controllare e però non mancava. Eia, anche perché te lo devono dare in un pezzo unico, non a pezzi, no, ci mancherebbe. Eia, vediamo se è rientrato Claudio, un attimo che vado a vedere una foto allo smartphone che è in carica. Claudio, ci sei rientrato? Valerio? Sì, lo conosco quell'apparecchio, su internet l'ho già visto tante volte, ne hanno anche parlato. L'unica cosa è un volgare baracchino MFM omologato, quindi immagino solo come uscirà, ma non è detto. L'unica cosa diversa è che ha il display a cristalli liquidi a colori, tutto lì, perché se dito di quello è un volgarissimo baracchino 40 canale MFM omologato, tutti gli omologati escono sempre un po' cupi, boh. Non saprei, bisogna chiedere a qualcuno che l'ha usato, proprio che l'ha usato, che l'ha già comprato come esce. Però io prenderei sempre un apparecchio con la banda laterale, c'è niente da fare, cioè alla fine comprare un baracchino MFM anche per la macchina è come avere un baracchino azzoppato, perché ormai tutti quelli che ho sono con le bande laterali, MFM e banda laterale, anche quello piccolo, il CRT 9009, quello è piccolo, ma tutto, bande laterali, eco, autoascolto, tutto quello che puoi immaginare ce l'ha. Anziché spenderne 100 per quello lì che mi hai mandato, preferisco spenderne 200 per quello delle bande laterali, francamente, anche perché esce bene quello che il CRT 9009 che io ho, esce bene in radio, molto bene. Cioè la CRT ne fa altri e non so come escano, quello in più ha solo questo display. Tutti gli effetti scenici sono poi me, quello che conta è che esca bene la radio e che non sia troppo rumorosa anche in macchina, capisci a me? Vabbè, guarda, bisognerebbe guardare sul forum tipo Roger K e vedere se qualcuno l'ha già comprato e cosa ne pensa. Perché guarda, se non esce come questo, se non esce come questo baracchino chiaro, limpido, non mi interesserebbe a me, dovendolo prendere, non mi interesserebbe se non esce limpido. Su Roger K prova, sei iscritto là? Come? No, per leggere no, solo se vuoi scrivere devi essere iscritto. Io sono iscritto dal 2010 credo, o giù di lì, dai, quando sono rientrato al baracchino. Eia. Claudio, sei rientrato? Ebbè Eugenio, dove sei? Eia. Bello pimpante. Claudio forse sta dando da mangiare al cane, dai, oppure sta chiedendo di questo medico. Se vuoi Claudio ti mando il link, c'è anche la foto, è un po' pacioccone lui, un po' tondetto, cioè era poveretto. Guarda come faceva le ecografie lui, è molto scrupoloso. Vabbè, adesso vediamo appena rientra Claudio. Vai Natalino, saluta Eugenio se ti sente. Sì, sono qua, un attimino, devo subito. Io ho avuto modo di conoscerlo, la dottor Migaletti, bravissimo, la dialogo. Ma mi senti? Cosa sta dicendo Marco? Sono qua. No, chi è se tua moglie se lo conosceva? Sì, soprattutto il mio socio, l'ha accompagnato un sacco di volte in carretta. Anch'io penso qualcosa ho fatto, perché ho avuto dei carpoli tanti anni fa, quindi mi sembra che anch'io ho avuto un modo di conoscere. Mi dispiace, ma mi sono medico. Vabbè, pazienza. Ciao genio, tutto a posto, no tocche se... Ehi, bene, cioè bene, male. E quindi c'è anche la foto, mi sono la nuova, non so se... Pacioccone era, no? Molto cordiale, molto, non è di quelli scorbutici, purtroppo se n'è andato. A me veniva comodo perché era via Gorizia, io facevo praticamente 100 metri, 150 metri dai, ed ero arrivato. Mi avevo fatto ecografia ai reni, era molto molto scrupoloso, guarda. Quello che non avevano visto, allora all'ospedale, come si chiama? Pagando il ticket all'ospedale non vedevano nulla, né calcoli né niente, lì ha visto cose impossibili, calcoli da un millimetro, roba proprio molto molto preparato, lui molto gentile, macchinari di tutto rispetto, non come quelli dell'ospedale che sono degli anni 30. Vai Claudio. Ah boh, noi chissà che sarà uno dei tantissimi autisti che fanno consegne eccetera. Molti lo usano strettamente per lavoro il baracchino, non entrano nemmeno a parlare nelle ruote, capito? Parlano solo di lavoro con i colleghi e buco. Oia, mi senti? La risposta è un genio, lo senti? Cos'è che stava cercando Valerio? Valerio, cos'è che stai cercando? No, c'era un amico, credo, che voleva un baracchinetto. Ha visto questo CRT 2000, un baracchinetto MFM omologato che ha display a cristalli liquidi tutto a colori, no, con varie indicazioni. E io ho detto che a parte gli effetti speciali e i colori ultravivaci deve uscire bene di radio, tutto il resto è noia. Claudio oggi è distratto, mica. No, gli serve roba piccola per la macchina. A quanto ho capito, si voleva pigliare sto CRT 2000, però non si sa come esce. Cioè, gli omologati escono tutti i cupi, lo sappiamo, mi. Quasi tutti i cupi. Ci vuole qualcosa di più, che esca meglio. Per esempio il CRT 9009 è una bella bestia. Certo non è omologato, però caspita esce bene di radio, c'ha MFM, bande laterali, ecco, autoascolto, bip regolabile, protezione dalle stazionarie, protezione da sovravoltaggio e sottovoltaggio, c'è di tutto e di più c'ha. Ma non hai canali nemmeno. Io nel frattempo sto mangiando il riso che è bollente, sembra lava fusa. Natalinus, riprendi, dai. La mia amica, se io aspetto a te, non lo vedo più quel ciambolo. Vabbè, la sera, ti ascolto. Ciao, Luigi, io ti ascoltavo anche quando eri più in là, e tu non ascoltavi a me. Vabbè, la sera, ti ho rifatto a cui. Ancora no, sì, il cristo mio. Mi sa di distesa, sarà in Italia. Poi, non ho presciolto il telefono, pure di fare le studio. Sì, già aveva fatto le studio, ma troppo, non ho niente. E il problema è che non hanno il cavo, li stava arrivando. Quindi loro fanno la spedizione unica, tanto mi. Ormai il tempo migliorerà sempre. Quindi alla fine andata lì, che arrivi prima, arrivi dopo. Certo tu volevi l'antenna pronta già. Volevo vedere il giorno come procediamo, boh, mamma mia. Ma anche la Guarania ci ha preso. Sì, esatto, la Energy 5 ottavi. Bene, bene. E come vuoi procedere, Marco, se non dite. Ma lui che ti ha fatto l'antenna, io Claudio facciamo l'altra cosa che c'è da fare. Sì. cosa. Ah, no, non me l'hai detto, veramente. Un secondo, sto lavorando per là. Vendo Galaxy Uranus, 150 euro, non trattati, cambio. E beh, non parla più nessuno. Bella Marco, ti aspetta lì. La vita mia moglie, pensando alla nuova regia. E ora? Ma volevo fare un tondo alla manica di mia moglie, a mia moglie, ho fatto di gente di tutti i luoghi, guarda, non ve la posso fare se non sono quella che è a Marte. Ah. Quindi è l'Uranus, ok. E anche la giù di l'Uranus. Lo so, tu che ragazzi dappertutto. Ragazzi, ci sono i soldi che mancano. Minchia, non mi scende il riso. Quando mi si pianta lì alla bocca e allo stomaco, c'è una cosa allucinante. Me lo fa sempre, nonostante beva. Aspetta, guardate lì. Ma non è che in macchina tua avevo lasciato un microfono, no? Ma per quale motivo la microfono è di due per la parte? Questo l'ha lasciato in macchina, non l'ho più presa. Io la macchina non la prendo, la faccio per te. Che microfono dovevo prestare? No, no, allora non c'è. Era il microfono che avevo prestato a Eugenio, a Eugenio. Quello, lo ZG da Palmo. L'ho portato a casa, probabilmente, chissà dove l'ho buttato, non lo trovo più dal giorno. Non lo trovo più. Devo averlo, sai, per la fretta, ti ricordi che abbiamo provato quelle antenne, no? Sicuramente io per la fretta ce l'ho buttato in qualche angolo. Non l'ho più trovato. E via. Che con l'antenna tua guadagnavo 10 viti e con l'antenna mia ne perdevo 10 nei confronti di Claudio. Adesso bisogna vedere come va quella che mi ha dato Eugenio, che avevo tentato di più di quella corda tua. Allora, ma non l'hai ancora provata questa antenna? Io volevo i risultati. Io mica porto il ricicletto, Sì, non l'ho provata, no, che non l'ho... Se non c'è nessuno qua, di giorno d'esco di sera, che c'è qualcuno, di giorno d'esco di sera, in modo che ci sia qualcuno qua e mi dai controlli. Però la cosa che si è andato solare Marco, così, no, l'antenna corta. Però dice che non è andato un cavolo la sua, però la sua, su base magnetica, non è fissa come la mia. Ma fammi, ma con quella corta io sotto casa tua ti ho sentito qua. Sì, anche avevo 5 ma con tutto. Vabbè, Santiago 5 è lì in mezzo ai palazzi con l'antenna corta, capito? Però arrivi. Io penso che dovrebbe andare di più di quella di Marco, perché quella di Marco è sulla base magnetica, invece la mia è fissa nella cassetta. Certo che sì, sicuramente, ma magari quella che c'è Marco, io Marco lo sento quando c'è quella lì, quindi non ce n'è problema. Vabbè, bisogna vedere la simpatica, io voglio rendere un conto, se no mi rimetto la più lezione potente quando me la tiro da lì. Tanto la faccio della più lezione potente in macchina, capito? Basta esiste con la base o con l'altra. Si conferma, infatti è proprio così. Quello non ha fatto quello che ho fatto io posticcio, infatti sono le quattro stazionarie. Avete che lui alla fine è un trama da 1-4, ma tanto che te la combattere le altre. Sì, ma infatti te l'ho detto, cioè usa quella linea, la togli da lì e te la rimetti in macchina, tanta cosa di Sifi. Vengo subito un attimo, ciao! Ciao oggi. È quella che c'avevo io in Matteo, non quella più di certa gente. Cazzo sei in Matteo, ma io voglio guignare, vicino a Pugiani, e dove voglio avvenire uno. Sì, quanto volte ti ho sentito la patta, ma un bel forte. Con il 48X arrivavi benissimo alla grande, non c'erano problemi. Entendi Marco? Sì, mi ricordo che c'era una differenza notevole con l'antenna piccola, quella tipo vigili urbani, e con l'antenna lunga 1,60. Tutte e due a base magnetica. Mi pare che arrivavo 3 o 4 con la piccola a Platamona, no? parcheggiato, diciamo, a fianco al ristorante, nel vialone che va alla rotonda. Arrivavo con la piccola 3 o 4, con la grande arrivavo 7, c'era una notevole differenza, quindi l'antenna più grande è meglio, è anche da 1,60 abbassami, la PLC 800 mi pare sia 1,60, 1,65 e va più che bene quella. Guarda, io ci fa pari merito con quella di Gianni, che Gianni c'aveva la 2001 allora e io c'avevo la PLC 800. Beh, quella PLC 800 era una bella. Sì, anche se le prove poi vanno fatte nella stessa posizione al millimetro, capito? Cioè l'antenna deve essere nella medesima posizione, proprio misurata al millimetro di quella di Gianni per fare la prova. Ci dovrebbe spostare lui, andare tu e metterla proprio, ma sai cosa vuol dire al millimetro? Se no la prova non vale, perché come ti sposti anche di un metro il segnale varia. Ma io mi mettevo a fianco. E lui poi ce l'aveva al centro cappotta, era avvantaggiato su di me, io no, io ce l'avevo sul davanti, te lo sai dove ce l'ho l'antenna io. Gianni mi via la 2001 su al centro cappotta ce l'aveva. Sì, da 1,60 a 1,90 poi non è che cambi, non è abissale la differenza, non può essere abissale. Capito? Babba via sta roba. Bene, bene, cioè bene, adesso mi mangio qualcosa di frutta. Cioè, questo riso è stato, sembrava di mangiare puntine, puntine quelle, le conoscete le puntine, quelle per fissare i fogli, no? Quelle che hanno quel dischetto tondo e poi la punta proprio, il chiudino, no? Adesso sembrava di mangiare puntine. Aspetta, chi ha parlato sotto? Valerio? Ehi, ma io un po' lo mastico. Il riso già lo mastico, poi era anche ben cotto, però mi si blocca sempre, non so perché. Il riso è proprio allucinante. Sì, anche a me si può salva, quella l'ha portata, l'ha fatta l'altro giorno, gli era proprio. Che poi, detto tra noi, per vedere se c'è un'ansa lì nell'esofago, dovrei fare una gastroscopia. Non ti nandino, e chi mi tiene a fare la gastroscopia? O mi addormentano, se no io non sono in grado di farla, o mi viene un infarto. E se ti fatti più da tortiglia, uno o due ne ha fatto di gastroscopie, quando facevo il volontario, mi portavo io a fare la gastroscopia. In avanti. Da sotto, da sotto, le facevano qui. Cioè da sotto, da sopra? Sì, facevano la gastroscopia e la retroscopia, facevano. Ah sì, il tipo di... Beh, peggio che ce lo fanno assieme, da sveglio poi mi. No, infatti è meglio che ti siedi, no, perché essere brutta è, per me che non sopporto oggetti in gola ad essere brutta. Mamma mia, non sia mai. Un malato l'ho preparato io, il dottor Ustiglia, lui con lui manco la sua casa, ma non mi sono visto che mi ha dagli affronti, se mi viene. Ma sempre da sveglio, no? Non lo fanno l'anestesia leggera, no? Un po' di valio, si dà. Oh, arrivo subito io, un secondo che c'è gente. Eia. Sì, Natalia, a me il valio manco il pelo mi corica. Mi da sicurità, non si può che fare. Se lo facevano per via... per l'inversione, la facevano, esatto. Ma deve essere una bella botta, per me. Una bella dose deve essere, da proprio da farmi addormentare, se no... Mamma mia, o mi devono legare le mani, mi devono mettere le manette, se no me lo strappo da bocca. Anche a oltre alla gastroscopia facevano anche la prelevavano un pezzo di un campione dove il mio studio tutto l'ho visto. Invece c'è mia zia, per fare la retroscopia, no? Che prima mettono aria, no? Per dilatare le pareti, no? Dice, è doloroso. L'hanno addormentata proprio, era in anestesia. Si è svegliata e non capiva niente. E dice, beh, non me lo fanno. E dice, in realtà l'hanno già fatto. Questo non me lo fanno. La buona esumizia. Sì, sì, era proprio in anestesia. Infatti poi si è svegliata che aveva gli occhi stralunati, non capiva niente. E dice, beh, non me l'hanno fatto. Sì che te l'hanno fatto, tu eri addormentata. Era proprio stralunata, me. E vabbè, io l'anestesia generale invece l'ho fatta proprio due volte. Negli anni 80 per la fimosi. E nel 2009 per i calcoli. Però era stata operazione di, come si chiama? Col sondino, mi non aprono niente, entrano dal pisello e ti bombardano i calcoli con laser, capito? Sì, adesso hanno fatto partire al gigante, se no chiudano così di una brutta. Oh, per carità, invece lì entrano col sondino, entrano nella vescica, poi il mio era nell'uretere sinistro, cioè quella via che va dal rene alla vescica, si era piantato lì, ma sai quanto era grosso il calcolo? 13 mm il lato massimo, un proiettile Baria, un calibro 50 lo sai, quasi 13 mm nello spigolo, no? E quindi si è piantato lì e non si muoveva, il rene stava gonfiando, c'erano i... adesso non mi ricordo come si chiamano, insomma dice no qua operare, e meno male appunto che esiste ormai quella pratica lì con laser, se no aprire ti fanno danno. Poi mi hanno messo uno stent che andava dal rene alla vescica per far scendere meglio no, il liquido, l'urina, e tutto lì, dai. A me l'hanno messo nel cuore invece, nella figlia, lo stent. Perché? Cosa hai avuto? Roba al cuore? Ah, l'ho avuto nei fatti, io ho visto la volta in faccia al vero, mi immagino. Oh, ma quanti anni fa? Esattamente nel 2007 ho avuto un infarto io. Praticamente me l'hanno fatto così, l'intervento. Io avevo un'arteria completamente ostruita. Oh, ma la cosa dipende dal fumo o dal colesterolo? Tu fumi un bel mi, non dovresti fumare una tarì, fa solo male. Di tutto un po' lo so che non devo fumare, di tutto un po', comunque era completamente ostruita tutta la merda che mangiavo, mamma mia. Invece si salisse lo sterolo e si rilassi, non passava una goccia di sangue, mi è venuto per quello. Minchia, allora era proprio grave anche com'è. Mi, come ha detto a Claudio, non fumare Claudio, datti all'alcol. Dalla padella nella braccia. E dicevo, questo stent no, serve a far scendere meglio l'urina perché è forato dentro. Il brutto è che dopo un mese te lo devono levare, dopo 20 giorni. Adesso arriva questo con la cannula d'acciaio lunga mezzo metro. Mamma mia! E devono arrivare fino alla vescica, poi con le pincette no, interne, c'hanno quel macchinario per muovere le pincette, no? Devono agganciare il ricciolo dello stent, no? Si chiama doppio J, no? Te lo devono agganciare e tirare fuori tramite la cannula a guida, no? Me l'ha fatto anche vedere, era celestino di colore. E poi tutto perfetto, dai, però caspita, minchia, 13 mm. E quindi mi hanno detto, ma perché lei non l'ha fatto prima? Guardi, io credevo che uscisse per vie naturali, cioè che si frantumasse da piccolo, o che uscisse da piccolo per vie naturali, invece no, è cresciuto fino a diventare quasi 13 mm. E poi ne fa l'altro, capito? Si è piantato lì, nell'uretere sinistro. È un casino, D'altronde qua, se io avessi dovuto fare quella cosa, dice devi entrare in una vasca, no? E te li bombardano con gli ultrasuoni, però a Sassari non ne fanno, non so dove lo facciano. Ma non me l'hanno lasciato dentro lo stesso, perché me l'ha fatta la studia. Lì è, sì, lì è un'altra cosa, il mio è invece temporaneo, no? Che poi la pipì la faceva, poi vabbè, è brutto anche quando ti levano in ospedale il catetere, no? Perché dopo l'operazione c'avevo il catetere o la sacca. Mi ha distratto il tipo, dice, mi passi quella cosa che c'hai dietro? Io mi sono girato e lui sta, me l'ha sfilato, no? Prima ha sgonfiato il palloncino, no? Con la siringa. Poi mi ha distratto un attimo in modo che io non mi spaventassi guardando, no? E poi sta, l'ha sfilato tutto di un botto, no? Dopo scusa, chi sono della provincia che tu quasi a strada dura? Oh, a strada dura? Ma il palloncino già lo sgonfiava, sì, se non te ne faccia tutto. Quello che faccio da l'altro collega per scoppio, c'è un altro dottore, però l'altro era bravissimo, era anziano, bravo, guarda. Invece se scusa non si incazzava per la strada dura da via. Mamma mia, di quelli che perde la pazienza, mamma mia, per carità. E lo so, sarà in pensione quello bravo, e ci sarà lì, già. E d'altronde loro devono capire che quella è una cosa invasiva, fastidiosa, cioè io chiederei l'anestesia generale, tanto l'ho già fatta, non sono allergico. Avrei detto addormentatemi perché io esco di testa, Senta. Aspetti che si facevano i vari di emozione, capito? Facevano... E quanto la reggerà questo di vari? E di vedere la migliore? Purtroppo... Sono... Certe cose sono invasive, sono più fastidiose, sai? Ma... Bene. Ma io che sei rimasto qua? Valerio ci sei? Ah, ok, Claudio c'è gente, insomma siamo solo noi, dai. Allora, via. Io sono sempre con questo dolore qua, cazzo. Ho comprato, ho finito anche la cosa e me l'ho dovuta ricomprare. Formato famiglia la fanno adesso due volte adesso. Oh. Ma io te l'ho detto, io ti accompagnavo dall'asino della Crucca, vedrai, ti raddrizzava tutta la schiena, la spina dorsale ti raddrizzava, con un colpo solo mi sta. Poi la trattatura come faceva lo scuso, vedrai. Ma la strazzatura quando infilava o quando toglieva? Quando toglieva, perché cazzo molte volte non riusciva a fare quello che doveva fare, la si incazzava dalla manatella, perché il paziente magari non stava fermo, questo e quell'altro, e lui doveva lavorarci lì. Perché il medico dovrebbe provare la gastroscopia, poi capisce, cazzo non è che la persona può stare buona e calma, no, tranquillamente quando ti infilano un tubo lì nella gola, no, e purtroppo molti medici non lo capiscono, sono nervosi e si incazzano di più, ci vuole anche un po' di pazienza facendo certe cose. E infatti, quello cazzo era un cane, era. Perché io lo tenevo meglio così, perché era un cane questo. Lo lascio di ragazzo, cane, cazzo, cazzo, così sia sempre. Cazzo era di lusso, di tutti i primari, no? Cazzo. Ma lì due per cui c'erano... Gente così stronza, non ha mai visto io. Cazzo. Io per dire, la tua casa, non è malato, cazzo. Perché erano tutti molto invalidi, no? Quelli che mettevano lì. O che avevano fatto il corso, o che non potevano fare i vestiti. Allora glielo volevo mettere... Quando il dottore era già pronto, anche all'imposizione glielo mettevo il malato. Quindi il cognome è vero, il cognome esatto è Cuga. No, Cuggia, si chiama Cuggia. Ah, ok, allora me lo segno, mi. Adesso me lo segno, così se mai dovesse capitare che la devo fare, da lui non ci vado. Vado da un altro, cazzo. Magari peggio pure. No, quello che c'era, ma sono tutti così, vedi, sì, no, ci mancherebbe altro. Addirittura c'era il marito di mia cugina, che è il medico, quello lì. Lei non aveva mai visto la gastroscopia, è venuta apposta in ospedale per vederla. Ma te lo immagini, un medico. Dice che adesso stanno studiando anche queste pastiglie da inghiottire. Lo sai, queste pastiglie da inghiottire e sono praticamente una telecamera con batteria, tutto miniaturizzato, nanomacchine sono. Tu inghiottisci questa pastiglia e quella inquadra tutto, no? Tutto il tratto esofageo, lo stomaco, il duodeno, tutto, capito? E poi la fai per vie naturali, no? E dici, inquadra tutto e trasmette tutto allo schermo, capito? Devi mettere una sonda vicino sul corpo, no? In modo che il segnale sia bello forte, e ti fa vedere tutto, capito? Meno invasiva è. Ma quello era da tanti anni fa che lo stavano studiando e l'avevano e c'erano anche riusciti. Però non lo so se la fanno in modo tradizionale, adesso se la fanno con quella pastiglietta, dicendo tu. È quello il discorso. Perché se la fanno nel modo nuovo, hanno risolto la via molto invasiva che era quella tradizionale. No, quando so io lo fanno sempre la gastroscopia. I macchinari sono quelli da noi, la sanità è messa male, usano quelli. Mamma quando era stata male le avevano fatto la gastroscopia. Dice mamma mia, c'è gente che ne ha fatte 3, 4, lo sai. Purtroppo quando c'è certe patologie non ti puoi esimere da fare gli esami. Se uno dice, beh, buongiorno, lo dimettiamo e vado a casa a morire, ti dicono. Cioè, o devi sottostare, fare gli esami, se no ti lasciano. Cioè, capito, no? Purtroppo ci siamo messi male, e cosa vuol dire? Perché ancora io avrebbero risolto tutti i problemi, nel senso che non c'era scopo di fare la forza di fare la gastroscopia, la fanno magari se devono togliere qualche pezzo di tessuto per analizzarlo, capito, se c'è qualcosa che non va, la prendono e prelevano un pezzo di tessuto, pezzo della gastroscopia. Però che non erano riusciti ad avere queste telecamere così, no? Io faccio un esempio della gastroscopia passata, un dettaglio un po' più strano. Era da tanti anni io sapevo l'esistenza di queste cose qua. Eccomi. Vabbè Claudio, liberato? Sì, sì, sì, ce l'ho. Un fattore del condominio. Pagare, pagare, pagare. Pagare. Il condominio, 200 euro inizio lavori, sistemazione, fabbri, fatto, 300 euro, vai, e tu travaglia. Minchia, qua paghiamo già troppo, adesso bisogna pagare la rata quel lavoro, l'ultimo fatto. Boh, non vedo tribula. Il condominio è così. Andavo a fare così, ci occupavo del condominio, figurati, non le balle piene, non volevo andarmene. Adesso provo a sistemare i giardini, potature alberi, perché sono da cimare, che ce ne molti pericolosi, sono ombre alti, capito? Allora, fate un conto, 2 agosto, cosa costa una scala aerea? Cosa costa una scala aerea al giorno? Mi sento io, facciamo buonanotte, fate un conto, quando c'è anche la potatura, c'è anche il... portare via tutti, di tagliare il rame, pulire, fare, capito? Sono viaggi di camion, la discarica, vabbè, pagato e pagato, serve le luci. Quanto invece non altri? No, stavamo parlando di medici, di gastroscopie, di grosso, carità, roba seccante. Ciao, motoporta. E saluto a tutti. c'è una villetta su me, là, vicino di te. Ma se no non capo l'appartamento, aspetta lì. Subito punto di te. Dalla nostra cosa che sto costruendo io, quindi non è finita, poi la costruire mi interessa più questa zona, ma non vorrei andare proprio a Sassari, non hai capito? Sì, rimane per andare alla cosa, come si dice? Basta, fare gioco, più che altro. Guarda se la marca, avanti. Vabbè, Antonè. No Claudio, stavamo parlando di medici, di cose, di gastroscopie, di roba seccante, ancora siamo con la gastroscopia, avevano inventato quella pastiglia che la mandi giù ed è una telecamera, no? E trasmette tutto al video, no? Allo schermo. Non c'è bisogno più di. Solo che ce l'avranno forse in America, forse in Giappone, qua no. Poi c'è l'attacco. Ma è dato fuori a un botto di vernice pieno di questa pappetta da mangiare. Quello è il bario. Mamma mia, cantera Malaga. Beh, più che altro il bario è denso perché sa di fragola, almeno nel mio caso sapeva di fragola, però era troppo denso, non riuscivo a mandarlo giù, troppo denso era, troppo, e il medico si era buriato, no? Ha detto, se la mangi lei allora. Allora sono intervenuti quelli, gli assistenti, no, più tranquilli, hanno fatto un bario un po' più liquido che era bevibile e sono riusciti a farmi la radiografia dallo stomaco. Ma domanda, cosa serve questa cosa? Allora, il bario è radio opaco, quindi serve per vedere la forma dell'esofago, la forma dello stomaco, capito? E quando fai la radiografia quello è molto opaco e quindi vedi la forma di quello che prende, che sia lo stomaco, che sia l'esofago, che sia il duodeno anche. Ecco, capito. Grazie dell'info, dottor, perché io l'ho presa un paio di volte questa cosa, già l'ho detto, e quindi non capivo cosa servisse. Sì, nonno. A secondari, la domani fatto l'operazione a Ruguri. E poi bruciava. Oh, Natalì, bruciava pure. Liquido di contrasto e tutto radioattivo, mamma mia. Allora, io avevo fatto una volta un attacco al cranio perché sentivo una pressione dietro l'occhio, no? Mi stavo preoccupando, poi non c'era niente. E mi hanno messo il liquido di contrasto e ti dà un senso di calore nelle vene, senti proprio un calore nelle vene, capito? Però tutto lì. Sì, è radioattivo il liquido di contrasto, è altro che. Poi però lo espelli per vie urinarie. Sì, già lo so, non è che rimane radioattivo. Quindi non è una sorta di protezione per fare questa radiografia? No, il bario, ormai non credo che si usi più il bario, c'hanno l'attacco, c'hanno la come si chiama quell'altra, la risonanza magnetica, certe volte non so se si usi più il bario. Purtroppo la gastroscopia la fanno sempre quando uno c'ha problemi allo stomaco, all'esofago, purtroppo la fanno sempre, quella è brutta, l'ha fatta mamma, cioè è bruttina, all'inizio è bruttina, poi magari a me mi dovrebbero sedare, proprio addormentare con anestesia, sennò divento matto, non ne parliamo, dai. Quando a me gli ospedali stanno tanto sulle balle, non li posso vedere, mi si abbassa la pressione, poi quando vedo le sale operatorie pure mi peggio che mai. No, poche volte sono entrato io, anni fa, forse avevo una quarantina d'anni, 40-45 anni, avevo fatto un attacco, perché avevo sempre un dolore al petto, non riuscivo a capire che cos'era, invece tutto dall'artrosi, vedete, così. E mi viene era densa, era molto densa. Se era molto densa è quello, forse volevano vedere anche l'esofago, a parte tutto il resto, no? È storia antica il bario, non so nemmeno se si usi più. Cosa ti volevo dire? No, vabbè, io anestesia totale l'avevo fatta nell'85 per la fimosi. E poi quando mi hanno distrutto il calcolo col laser, però senza tagliare nulla, col sondino che passa da lì, dalla pipiriola, capito, è entrato nella vescica, è andato nell'uretere e hanno bombardato col laser, hanno distrutto, frantumato il calcolo, capito? Niente tagli però. Come ricordo, il calcolo, io ero ragazzo, non si è appena sposato, 27 anni, non ci arrivavo a 30, avevo dei calcoli renali, e mi avevo detto, dove ce l'avevo? Citifelle, forse sono italiani, mia moglie. E mi aveva detto questo ruolo, no? Di bere molta acqua. Allora io lavoravo nella zona di Tempio, e mi aveva detto beva molta acqua, però io lavoravo, e dici sì, beva quell'acqua, beva quell'acqua. E cioè io c'avevo un collega che beveva un po' di birra, e mi ha detto, ma tu ci vendeva l'acqua ti fa urinare, ma non come la birra, attacca per il birra in quel periodo. Mi ha giunvati, ma così non me ne sono manco accorto, l'ho più sentito dolore. Però è strano che, cioè, se calcoli c'è una cistifelle, perché bere acqua, un bel di acqua? Quello te lo dicono quando hai il calcolo al rene. E mi hanno detto, va 3 litri di acqua al giorno, e ho detto sì, aspetti che mi affogo direttamente in piscina, così ne bevo di più di acqua. Però per la cistifelle l'acqua non so cosa serva, forse a fluidificare più la bile, quella che si trova lì. Ah, non ne so, Claudio. Beva, come la Fantozzi. Sì, ma beva. No, mia moglie è sbagliata, era renale, era il calcolo renale, era. Perché avevo fatto un'altra visita e dice che c'aveva il calcolo di cistifelle, invece non era preso. Era un calcolo renale, capito? Un calcolo renale, infatti avevo attaccato a bere birra. Sarebbe bevuto anche acqua, però era il periodo estivo che avevo un po' di birra. Ho sentito una mattina questo sollievo, perché avevo sempre bruciore, non sai quando allenare sentivo questo bruciore, un sollievo stamattina di tubù, non bruciore, andavo, mai, boom, niente, finito, e deve essere la birra che mi ha colto la fisciringata, e decido il garraggio. Sì, una volta io ne ho sparato uno di quasi 7 mm, avevo fatto la pipì nel secchio proprio per conservare il campione, per farlo analizzare. Prima ha graffiato un po' nella zona lì, no? E poi ha fatto proprio stack contro il secchio. Sembrava un pezzo di scoglio, proprio presente lo scoglio che trovi male, le stacchi un pezzetto uguale, una cosa avvicinante, figurati quanto graffia dentro, quanto fa male quello quando si muove. Sì, l'ho visto, proprio sembra una pietra, ma cosa, proprio un sassolino, e poi non capisco perché si forma questa cosa. Non c'è un filo di vento che si abbatta lì, ma calma piatta, amico. Allora, non è bello, mi ha tanta capitura. Non c'è un filo di vento. Allora mi sono 7:30. 7:20 sono. Avanti, Natali. Piatta lì. No, io ho già mangiato le 6:30. Adesso, tra un po', tomerò voi, mi pare che faccia buio, lo porto a fare i bisognini e poi è finita quello per cagliera. Ma lo sai cosa ha fatto una ricercatrice universitaria, una tipa che tratta sempre sempre di radiazioni. Una volta è andata, è una che mette video su YouTube, è andata a farsi la scintigrafia della tiroide, o come si chiama, e le hanno iniettato un liquido radioattivo, no? Per far risaltare la tiroide, no? Come fanno in altri casi. Si è messa al contatore Geiger, no? Quello che indica le radiazioni, vicino alla gola, ed era a manetta mi, era impazzito, riesce a dire Beh, lei cosa ha fatto per conservarsi il campione radioattivo? Guarda cosa ha fatto, quando ha fatto la pipì, no? Perché quella roba si espelle tramite urine, cosa ha fatto? Ha cucinato la pipì, l'ha messa sul fornello in un tegame, ha fatto evaporare l'acqua, immagina l'uviago, no? Ha fatto evaporare l'acqua e quello che si è asciugato poi era una specie di crema giallastra, no? E quello era proprio il condensato del materiale radioattivo. E l'ha messo in una provetta come campione radioattivo, capito? L'ha messo dentro una provetta, era una pasta giallina. E come avvicinava il contatore Geiger alla provetta impazziva, devi vedere quanto segnava. Vabbè, ma adesso la tecnologia è molto diversa, adesso ormai con i sistemi che ci sono adesso non c'è nessuna terapia, chi bombardano, via, fatto, tutto a posto. Ma no, dico, l'idea di questa che si è cucinata la sua pipì per far evaporare l'acqua e tenere la sostanza radioattiva. Aspetta, immagina un viaggio, che schifo. E come si è asciugata l'acqua, è rimasto residuo ed era proprio una pasta gialla altamente radioattiva. Ma c'era una provetta, essere conservata come campione radioattivo, no? Perché lì viaggia a Chernobyl, fa misurazioni varie, è una ricercatrice, credo, medica. Perché per esempio ho fatto un video anche vicino alla sala operatoria quando facevano un bombardamento di un cancro alla prostata, usavano, dice, una specie di minuscola particella altamente radioattiva per bombardare proprio il cuore del tumorino, no? Per ammazzarlo, e devi vedere la radioattività quanto saliva nella sala operatoria, e pare salita, loro erano distante 4 metri dal paziente a 4 microsievert, no, millisievert, 3 millisievert è salita, che è una cosa alta. Il paziente avrà subito 15 millisievert di radiazione in quel punto, che è un bel mi. Io credo che è un bel. Ma infatti quando fanno la radiografia non si può entrare, sono protette con le tante. Sì, ma quello è niente, la radiografia in confronto è una cosa ridicola, ma lì hanno un macchinario grande, costruito tutto in uranio impoverito proprio per schermare le radiazioni, no? Praticamente c'è un tubicino, no? E un ago, fanno entrare la testa dell'ago nel tumore, della prostata in questo caso, no? In questo tubicino passa una specie di piccolo seme altamente radioattivo che va a finire nell'ago e proprio dritto dentro il tumore, e lo lasciano lì per alcuni secondi per bombardare il tumore, uccidere il tumore praticamente, no? Poi una volta finiti i secondi di esposizione lo aspirano, torna indietro questo seme radioattivo nel macchinario, capito? È tutta una cosa, ma quello è veramente altamente radioattivo, non è come la radiografia. La radiografia in confronto fa ridere, quello è un trattamento molto particolare, si chiama radioterapia, in poche parole. Sì, la radioterapia, sì, che è una cosa che però è nata dopo la chemio. Sì, immagino di sì. E la chemia è brutta, è tremenda, almeno quello che si sente in TV è allucinante. Ti fanno bere sto veleno, te lo iniettano, una cosa terrificante. Oh, anche la radioterapia è importante, perché dopo una dose tale di radiazione un po' ti senti stanco, ti senti quasi male, poi ti passa però, puoi avere anche, che ne so, adesso non voglio scendere in particolare, tipo sanguinamento dal retto nel caso del cancro alla prostata, no? Dopo l'esposizione delle radiazioni, poi passa nel giro di un po' di tempo, però se ha successo la radioterapia riesce a uccidere il tumore, capito? E ti salvi la vita. Sì, infatti sento spesso che molti, anziché la chemio, fanno la radioterapia, dice più efficace e va meglio, insomma, non so, poi ognuno dice la sua. E figurati che per fare questa radioterapia i medici, i muri che separano dal paziente sono, hanno mi pare 10 cm di piombo, mi lo sai? Roba di 10 cm di piombo nel muro per schermare le radiazioni. E il vetro, c'è un vetro trasparente, no? Un po' scuro, da dove loro guardano, che è un vetro con alto tenore di piombo e serve anche quello a schermare dalle radiazioni. Però nonostante ciò, se il paziente si becca 15 millisiever di radiazioni, che sono un bel, nella camera lì ne entravano fino da 1 a 3 millisiever, figurati la potenza di questo, c'è un semino, una cosa, un seme minuscolo, altamente radioattivo, figurati, mamma mia, roba tremenda è quella, la temo però. Sì, sono le radiazioni che mi ha beccato io quando ho fatto la, come si chiama, l'esame a mio padre, che l'hanno addormentato perché quello non capiva nulla, loro li hanno fatta come bambini, l'hanno fatta un'anestesia generale. E c'è lui e due animatori, e la viaggiare una giovane a lui, e di tutti quelli che dovete da proteggersi, uno va riunita, e loro vicino a lui che gli dovevo dire se è fermo fermo, non si, ma da fermo. Però male, molto male, dovevano darti almeno la schermatura per le palle, mi. Una volta che ho fatto la radiazione alla colonna vertebrale, no? Mi hanno dato una specie di mutandina di piombo, a te le immagini, Claudio, una mutandina pesante, laminata in piombo, per non far arrivare le radiazioni sui testicoli praticamente, no? Perché sennò puoi diventare sterile alla lunga. Scusa un attimo, ma se uno fa queste cose la protezione non ci vuole. Almeno ce l'avevano loro solo e buco ed erano ben distanti da me, ero io vicino al macchinario quando babbo entrava lì in quella macchina, acciò che quando eri al coso, con le ambulanze. No, a mio padre lo dovevano fare l'esame. Ah, ti avevo seguito. Loro erano protetti e distanti, tu invece di vicino. Vicino a mamma, voi da farli sta fermo. Natalino, ma era, come si chiama? Era l'attack o era la risonanza magnetica? Risonanza era. Sì, vabbè, no, ma lì è minore. L'attacco emette molte radiazioni, praticamente sono come delle radiografie una presso l'altra, no, a raffica, mentre la risonanza magnetica usa un campo elettromagnetico, ma non usa meno radiazioni, molto meno. Natali, infatti dicono che è più indicata, perché è meno radioattiva. Tanto però la radiazione va giù più piatto. Al massimo diventi sterile, dai, non puoi aver figli. Certo, se ne frega a questa età, ma meglio voluti fare i figli quando li potevo fare, figurati. Seia, seia, e tanti figli danno preoccupazioni, costano, poi diventano tutti delinquenti. Ma scherzo, dai, ma non si sa mai come vanno a finire i figli, poi è un impegno troppo grande, almeno per me, che non ho reddito. Bene Claudio, mamma mia, parlare di questa roba radioattiva, tutta roba l'onfia, l'onfia. Devi vedere a Chernobyl, ci sono certe cose tipo le pale che hanno levato, sai quelle pale meccaniche che chiudono a pugno, non so se ce l'hai presente, è una specie di artiglio, sono tipo quelle che prendono le macchine agli sfasciacarrozze, quelle le usavano per togliere la grafite e il materiale radioattivo da mezzo. Come l'ha misurata il coso impazzito, lo strumento, il contatore Geiger, proprio ha cominciato perché erano proprio altissime là. Dalla Ucraina vendono contatore Geiger, nonché dosimetro portatile, piccolino piccolino, sembra una calcolatrice, color giallo, costa 150 euro. E misura le radiazioni A, gamma e beta. Le alfa non le misura, però costa meno. Quello costa 150, conta che il Gamma Scout, che è più complesso, costa 450 euro, cioè tre volte tanto. Invece quello è più che sufficiente, se c'hai dubbi sul cibo che mangi, su varie cose. Per esempio c'era stato un caso che da Ocean, mi pare da Ocean, era arrivata una partita di pellet, mi pare dal nord-est Europa, no? Tipo Ucraina, no? E avevano riscontrato che era leggermente radioattiva, era un po' oltre la norma, no? La norma sono massimo 0,30 millisiever, no scusa, 0,30 microsiever, micro, 0,30, il limite massimo avevano messo, quello era un po' più radioattivo, capito? Infatti l'hanno ritirato dal mercato. Da Ocean era successo. Perché? Già lo sai, no, lì c'era stato l'incidente di Chernobyl, bene o male il vento ha portato le radiazioni un po' ovunque, quindi, ma poco mi era, cioè se te lo dico, il livello radioattivo era una barzelletta, ma sai, tutti qui la Nuova Sardegna l'ha ingrandito 100 volte, né? Ma a coso, pellet radioattivo, altamente radioattivo, tutto il panico, no, sono dei cazzari, sì, era appena appena fuori della norma, ma non ti fa nulla. Infatti, magari avrò più preso io di radiazione che col palle. Ehi, è con l'attacco che al cranio che ho fatto io, immagina quante radiazioni ho preso. Poi mi hanno fatto anche il contrasto, che è pure radioattivo, figurati. E a me che mi hanno messo di più la radioattivo quando mi hanno fatto la cosa, la geoplastica. È vero. Lu. È vero, Lu. Buonasera. Va bene. Ehi, ciao Gabriel, buonasera, ben entrato. No, volevo capire, ma quelle stanze dove fanno la radiografia non hanno nessuna protezione, perché poi nella porta c'è scritto, c'è un cartello che non si può entrare, però entrano tutti senza protezione. Vabbè, dove fanno la radiografia è diverso. Non è come se l'attacco più arrivante. Sì, ma sai cos'è? Oh Claudio, che la radiografia è una fesseria, come la radiazione è una fesseria. Vedi, il medico che ci lavora, le protezioni ce l'ha perché lui dalla mattina alla sera fa la radiografia, perciò se la deve mettere la protezione. Non ti fa nulla, no? Anche se stai lì non succede niente, sono minime. Tu guarda, se tu vuoi morire di radiazioni ti devi fare almeno 70.000 radiografie. Rendo, se vuoi morire devi fare 70.000 radiografie, allora muori. Queste 70.000 radiografie, è cosa servono? No, appunto, per dirti che il livello delle radiografie è basso, capito, è basso. Giustamente chi lavora si deve mettere il collare per la tiroide, si deve mettere... perché quelli stanno tutto il giorno a fare radiografie, ma chi ne fa una non gli fa niente, capito? Ha giù capito, vabbè. Tu bello Gariel, cosa ci racconti? Sì, niente, mi è uscito qualche lavoretto da fare sulla... come si dice? Adesso sto facendo un computer e poi domani ho altri lavoretti in un appartamento, delle tapparette da riparare. E niente, nulla, sempre la solita vita. La solita è la mamma, la solita la fatta Marina, la mia ragazza. Io sono qua, se no posso farmi le cose. Adesso un po' andiamo a mangiare, poi me ne rientro più, non so, sono le 10 o mezza, mi finisco il computer, così domani lo consegno, lo mostro a Elena e poi vado a farmi l'altro lavoretto. Bene, Luca lì, si da ammirare, ti è inventato il lavoro, ti applichi, fai, tutto quello che ti esce scendi, non va bene così. Sì, classe, se tornassi, cro, meno male, posso dire, almeno un minimo io me lo guardo in assetto, non sono tanti, però visti non ne ho, perciò non è che posso lamentare, dai. Ora se ce n'è di più è meglio, però mi accontento lo stesso. Avanti Marco, sempre di cosa stai parlando tu, dei yo-yo tuoi. Vada Pignà, la gente c'è via di Magnà, vai, cuocomane. Oiaia. Mica c'è cuocomane. Già lo so che c'è cuocomane. Ma vai da dove non si è calato il vento? C'era quel venticello che primo pomeriggio mi sa di svincoli ieri. Ah vai, calma piatta, via. Cazzo il cane mio si vuol fare la gatta, via. Vai, fammi la va, che c'è un cane gatto. Allora, la mia è giunto, la metà dell'economia ce lo volia fare. Fattelo, così non pago più condominio, così diventi fratello. Quanto lo vedi, dice con il matto. Dice, pure è napolitano, questo. Sono di fratello nostro, c'è una vita, sai. Ehi, sfaggimmi, ammi nulla, paura. Mannaggia che l'ha vista. Dici, non tu mi abbia arrivato, e tutti li consoleggia. Perché lo conosce, capito? Ma lo fate il dramma, come anticipo, se ne esci prima incannato. Ha detto, Riccardo, ma lì, genditi, non rimanere in piedi che ti si attacca la gamba. Sfaggimmi, su cane. Questo cane, peggio per te. Tu vuoi aggiungare. Come c'ho il campanello della prova porta? Perché mi avviso dal citofono, no? Scorsamente. E tu basta ricari, ne va incontro. A lui e a Massimiliano mi fa così. A Massimiliano la stessa cosa. È allucinante, lo vado a beffa. E a chi lo se a me non mi si è attaccato all'anca. Ma tu li fuori nella strada, non è quando c'è Massimiliano qua, non si può tenere, non lo lascia un minuto in pace, nulla, in alto, brutto, giù, a fare una zampa, tutti i coloni li fate, mi do l'attacca, che non mi dia pari barre, le culture, già, e a chi non fate meglio? A chi sa chi giuca, è un mezzo. No, ma ci vediamo, è l'unico proprio, ma come suona? Va nella porta, le apro la porta, le va subito incontro. Prima le gita ricari, a voi che ma ci vediamo anche l'ascensore, allora butti. Allora, bium, ma che senta l'ascensore. No, non ci andiamo a giocare, no, con altri no. Ti vede, prima tipo ti abbaia, capito? Come è fatto a te, mi torno, si è fermato in macchina. E ti ha abbaiato. Poi sei sceso e allora si è avvicinato subito a fiaggati a fa, capito? A tuo partito fa così, però quelli che conosce, si chiama rubato a beffa rubato. A volte infatti stiamo qua dentro, chiudo la porta, e mi si pone a pigli, a grattare gli anni che vuoi tra. Se vuoi giocare un dito. È allucinante. Vabbè, e cosa ci vuoi fare? Cane. È un guscio variato, come è tarato il vento. Sarei salito su stasera a farmi qualche cosetta, voglio montare anche quel motore piccolino, volevo mettere in vendita con la colla nuovo, l'avevo comprato a Franco Verta. Tanto non lo uso più, non c'ho quello grande, un po' che mi vendita, poi c'è il controbox, il rotore, il cavo, c'è tutto. Allora, mi dice qualcuno c'è qualche direttiva piccola, leggera, lo può usare. Allora facciala, che va arrivare arriva come, facciala pure la sua asciugata. Sì, anche il mio nella... o si affaccia qui alla finestra, poi la salia sopra la banca, no, qui sopra la scrivania, si è fatto a guardare nella finestra, si mamma mi ha fatto il radio, ma ha fatto la scrivania, e mica è pesante, ha avuto un colpo con un'ripata, un'ricinami, ha detto tutto un, e tutto un, mamma, gli troverà un cammino tutto in terra, e se no nel poggiolo va. Capito? C'è la ringhiera, mette i piedi e guarda fuori a vedere chi c'è. Infatti. Dice come intendi come mi chiamo subito attaccato alla giacca. Marca, deve essere così, capito? Non c'è niente da fare. Se... sul territorio, io non faccio mai scendere a coso, capito? A piedi nelle scale, perché a volte incontra qualcuno e non lo conosci e la baglia fa un casino, capito? E fa un casino, e allora lo faccio scendere sempre in ascensore. Ho trovato da scendere e scende nelle scale. Ah, sa, è un cane mandroni, non prendere a Bill. Ma sai, c'è un domani, perché io quando lo porto, no, che poi rientro, questo va. No, era lì, era in ferie, era una mattina. Sono una manifestazione dell'ascensore, io lo metto la porta del dottore, no, questo lo guintaglio deve fare da solo, e va e mi aspetta una porta dell'ascensore, e si è pujato l'ascensore, vicino all'ascensore, si è pujato la gente dell'ascensore, no, lo padrono, però no, io ho visto il cappello, manutenzione, e gente tutti così, mi guardavo, ho detto, ma non lo chiama l'ascensore, tu mica dobbiamo lasciare a piedi, mi faccio il compiccio. Oh, non si muoveva l'ascensore, ho dovuto riagganciare il guinzaglio e tirarlo per i fari. E a chi è abituato all'ascensore la sbaglia? Dove si tende l'ascensore? Tu mica l'ascensore funziona, mi tipo, aiuto, no, aiuto, a piedi, mi aiuto, guarda mai, guarda come salgo a piedi, aiuto, pugiato io e pugiato il rimasto. Allora l'ho agganciato di nuovo il guinzaglio, ho fatto fare i primi gradini e poi ho iniziato a salire da solo. Ma è un mandrone che non ve ne vede a dire. A scendere è veramente veloce, ma sta... Come me. Ah, come te tu? Ti chiamerei Filippo te. Natali, mica ti faccio sentire il suono di quello... di quel contatore Geiger quando segnami. No, è un video di YouTube, Natali. No, non ce l'ho quello. Vedi come si... Sì. E cos'è quello, Marco? Questo è il suono di un contatore Geiger quando segna radiazioni. Mi, guarda quando suona l'allarme, appoggia. Quando suona vuol dire che sono alte le radiazioni. Tu vai un camion a vendere retromarcia. Ah, Natali, vai un camion a Mondetta a vendere retromarcia. E perché ce l'hai tu questo strumento? No, ti ho detto un video di YouTube, mi, te lo sto rimandando. Si sente, sì. Alla grande. No, però quando vai in allarme sembrano il camion a Mondetta quando fa retromarcia. Ehi, uno di tanti video, e io poi non ho campioni radioattivi da misurare, cosa mi misuro? La chicchia? Facci che ce l'hai radioattiva. Oh, Valerio! Ma Valerio chiuso aveva? Ha detto rimaneva in ascolto, stava facendo roba. Siete sempre grandi cose, ecco. Sempre facendo roba sta lui. No, niente, così per sentirti, no? Al picci, no, per favore, non tocchi se picci. Se lo sai che tocchi un picci, allora a Elia, tata. Va bene, Marito, va bene, era giusto per sapere se ci scopo che fa, mi sono lontano. Allora, continua con un picci e non ti preoccupi. Ok. Avanti, Tattalino. E là te ne sa che sta concetta, gara. Mamma mia, gara. Sempre attaccato, Eia, io quasi quasi, siccome oggi non ho guardato telegiornali, vado a vedere nel telegiornale, dai. Comunque lascio acceso tutto qua, nel caso entri Pomponi o dopo, non lo so, vediamo se c'è qualche film bello anche, se no pazienza. Vi saluto, dai, per adesso. Ciao Natalino, ciao Valerio, ciao Claudio, dai. Domani guarda canale 5, domani sera alle 8:30. Dammi questa soddisfazione. C'è Juventus Barcellona, semifinale di Champions League, ok? L'unica partita che puoi vedere è bella, bella, bella. siamo partiti, la vanno a canale 5. Ah, sì, potrei guardarla, sì, visto che è chiaro, solo che sai com'è, fin da ciò come sono, se guarda la partita sicuramente la Juve perde, quindi è meglio che non ne guardi. No, no, non passa lo straniero a Torino, non ti preoccupare, che non vinci lo Barcellona a Torino, non ti preoccupare, che la Juventus è la migliore difesa d'Europa, lo Barcellona ha perso col Malaga in campionato, tu immaginati, capito, col Malaga ha perso il campionato, perciò... che due gol li facciamo, e se andiamo a Barcellona con due gol, quattro ne devono fare loro, e non ripiglia quattro gol la Juventus, tranquilla che non ripiglia, già mi ha rimontato quattro gol, perché ha perso 4-0 la... ai quarti, capito? E poi ha vinto 5-4 e l'altro telefono io vado a vedere al telegiornale se Trump ha scatenato la terza guerra mondiale, dai, a dopo. Non c'era niente al telegiornale, ho detto io alle due quando sono arrivato, non c'era niente di che. Stanno cercando, io ci sono mille tra carabinieri e come si chiama quelli di Sardegna, proprio sono di Calabria, mille persone ci sono e stanno cercando questo delinquente che ha ucciso una guardia forestale. E più una guardia giurata, sì, quello russo bastardo. Cazzo, mille persone, capito? Ci sono mille persone, cacciatori di Calabria, elicotteri, di tutto, perché ne ha visto. Capito? Se però c'era qualche sequestro non c'erano mille persone a cercare. Adesso se lo beccano lo fanno bello, grogo lo fanno. No, se lo beccano lo sparano, sono anche tiratori scelti. Se lo trovano lo sparano, lo sparano, l'hanno già detto, lo sparano. Eh beh, anche perché quello è armato, se non sparano loro prima spara lui. Ci sono quelli del Tuscano, ci sono i cecchini, anche quelli negli Udirani, che quello è pericoloso. Sì, sì, infatti l'hanno detto che sono i cecchini, capito? Tiratori scelti, così chiamati. Ah, secondo me quello lì è cuocomane. Eia, può darsi pure, mi sia pure cuocomane. Poi non si è capito se è russo, se di dove è bene. Solo che sparargli direttamente è troppo comodo, io l'avrei pigliato, l'avrei portato in quei luoghi strani, l'avrei attaccato alla corrente, capito? Torturato ben bene. Stile Cile, Argentina, anni 70. Chissà, io bisogna ammazzarla, giusto? No, senza soffrire, troppo comodo. Prima lo spari alle ginocchia, lo spari, in modo che non possa più camminare. Giusto, prima le ginocchia le fai saltare, poi le braccia, capito? Piano piano, capito? Te lo cucini piano piano, Natali, capito? Così bisogna fare. Allora sai una cosa, ho quella carabina che ho io, quella piccolina, che ci spara più il bambino, ho quella. Cazzo, quello lì mi lo spari alle ginocchia e gliela fa saltare, con quello cartuccio di quelle blindate che ho io. Vabbè dai, vado a vedermi il telegiornale, ciao, a dopo nel caso, ciao, se no a domani, ciao a tutti. Ciao Marco. Non c'è più nessuno? Vabbè, mi guardo il telegiornale pure io. Ciao a tutti. E Natalia, stavo pure in è rientrato adesso, c'era la mia moglie. Il Trump, il muso, capito? Ciao Marcolini, ci aggiorniamo, dai. Sono qua Natalia. Sono qua, guarda più il telegiornale, tranquillo, non c'è problema. Sono qua io comunque. E' bello Garriere. Mengia, la capigna, mengia che sta mengia. Oh, mica sono andato a vedere il telegiornale, mi. Ci ho voluto a pigliare l'acqua in questa camera. Ah, così è. Pensavo che stavi mangiando, ma mi sembra di sì, no? Noni, ho mangiato molto prima, alle 6:30. Dai, sto chiudendo, allora, voglio vedere cosa è successo. Gappa. Claudio, ci sei? Ehi, a Fra. Oh, ciao Fra. D'accordo? Come sto facendo? Bene o male? Benissimo, la grande, Santiago 9, sì. Guarda un po' che provo a aumentare. Perché c'è un po' di stazione, non è il problema l'antenna. La antenna è messo. No, sempre quella. Ho un po' una vitamina, adesso com'è? È un po' più di 9, un po' più di 9, però la radio è buona. Adesso sta salendo ancora? Più o meno 6, 9, 9, 5, prima di 7, 8. Un'altra attacca, adesso com'è? La radio sta rimanendo buona? Sì, sì, buona, buona, buona, sempre buona. Così la manetta? Sì, qui si rompe 10. Sembra che c'è l'antenna. Però c'è un po' di stazionare, cavolo, no, mollo, mollo. Ah, basta, lo metterò alla prima. Così è uno, c'ho uno... 1,3 di stazionare. Sì, qui già va bene, 1,3 già va bene, ma anche 1,5, se salgono 1,5 già, già va bene, ma più di 1,5 no. Sì, ma deve essere l'antenna che non è accordata, perché come si chiama? Il LOAD ce l'ho tutto a mano, è a destra. Ti ricordi se a destra è lunga o corta l'antenna? Il LOAD ce l'hai tutto a destra. Non so se è corta o se è lunga, boh. Deve provare a muovere un po' il controllo del radiale, là. Vabbè, ma quello per la radiale fa la senza amplificatore, se non ti sfasa, non fai il suo controllo a potenza della radio, vedi un po' quello, metterlo attaccato, se è da salire o da scendere. No, non ho capito. Ho detto, quell'operazione lì della caratura delle stazionali non la fare con l'amplificatore attaccato. L'ho messo a monte, l'ho messo oltre l'amplificatore, capito? Ah, ce l'hai all'uscita, quindi. Per riuscire a accordare l'antenna con l'amplificatore, sì. No, poi nello strumentino sì, mi segna qualcosa di stazionale nell'apparato, però poco, là. Sì, vabbè, allora. Già va bene, se non superi gli 1,5 già, l'1,5 già va bene, non sono cattive, dai. Sono alte, ma non è che sono, non fanno danno a me. Una poco fa quando ero al massimo potenza stava salendo già oltre i 2,5, era quasi a 3. No, così è troppo. Se rimane intorno a 1,3, 1,5 non succede niente, ma se superi gli 1,5 già inizia a dare un po' di difficoltà al ricetrasmettitore. E cosa stai usando? Sempre il coso, come si chiama? L'MS200? Ma è l'amplificatore? No, il coso, il baracchino. Ah, so, questo è il Super Galaxy. Ah, Super Galaxy. L'amplificatore cos'è? Uno Speedy? ZG. Il B507. Ah, 507, sì. Vabbè. Quello c'ha 6 potenze, così. Sì, c'ha 6 livelli. Alla grande. Ma quello che stai usando, il baracchino, cos'è? Base, fra? No, questo anche è portatile. C'ha il frequenzimetro, non so se ti ricordi com'è la busta. Sempre c'era anche Giulio quello. Anche Giulio c'era quello lì. Veicolare, diciamo, là, però quello massiccio. E questo mi sa che esce già lui con 20 watt. Quindi dietro c'è il dissipatore di calore. E allora usano in vari lineari. Metti a manetta il baracchino e basta. Cosa devo dire? Che volevo provarlo, dai, perché era molto fermo. Sono tutta roba che la ferma. Ecco, l'ospizio di provarlo, però con 20 watt. Anche Natalino con l'antenna di macchina usa 20-30 watt. Capito? Lui c'ha quello della Magnum c'ha il Megaforce, bellissima radio, c'ha 40 watt quello. Appena mette l'antenna usa tutta la potenza del baracchino. Natalia, ci sei? Lo senti a Franco adesso? Natalino, sicuramente ha abbassato il volume, stavo guardando il telegiornale. No, arrivi bene qua, arrivi bene. Sì, buonasera, sono dopo qua. Se pensi che le condizioni con cui sto uscendo va bene. Va bene, sì. Giusto per farci due chiacchiere in città, però se con l'antenna la sistemi bene già avrei ancora meglio. Vediamo Eugenio, vabbè. Eugenio, cosa vuoi? Che sono qua, buonasera. Sei qua dove? Qua, da questa parte. Ma dove ti trovi? Che c'è Franco che c'ha un'antennina lo stesso, non so se lo senti. Sono a Sassari, qua all'uscita dell'ospedale. Attento Franco! sono appena, ma è in movimento. Ciao Eugenio. Hola, buonasera, mi sentito? No, qua ti sento chiaro chiaro. L'ho aperto, ero sicuramente comunque in movimento, che vedo il segnale oscilla parecchio. Sì, sì, è in macchina, no, ma lui ti sente bene. Evidentemente tu lo senti a sbalzi perché è in movimento. No, ma devo avere io problemi di ricezione, perché io lo sento tutti molto bassi, bu. Quindi deve essere il radiale basso, bu. Quello di massa, bu. L'orientamento quello è col radialino, a me come mi senti lì? Sì, ma il segnale è basso, cioè io mi ricordo qua arrivavo il fortissimo, qui adesso mi dà 6-7 quando moduli 6 picchi positivi un bel potente. Non bisogna andare dove si sta andata con l'antenna. Stravetto, devi sollevarla un pochino con un paletto e il radiale cercare di tenerlo più alto possibile, non basso basso. Farli 45 gradi, vedrai che funziona molto meglio. E adesso è. L'angolo è un po' aperto, dai, non è proprio. Ma probabile che ci sia, come guardate, credo che ci sia. E che male si è anche ossidato tutto, blu. Da lontano gli ho sfruttato un po' di CRC, ma da lontano che non ci arrivavo. vabbè. Ma se vuoi farti del chiacchiera, io già ci metti poco tu a metterti l'antenna come Cristia, piccolina, ma almeno te la metti su. Ed è a posto. Dove stai andando, Genio? A casa? Sì, sto rientrando. Cappa, ascolta, chi c'è all'ospedale? Mio compare, già da un mese che c'è. C'è un mese che è buono. Niente di grave. Meno male. Dai, diciamo l'hanno preso per le pinze. Cosa ha avuto, infatti? Negativo, tutti i polmoni pieni d'acqua e non riusciva più a respirare. Ci vedi, tutte le maniere se ne sente. Vabbè, comunque se sta meglio così. Avanti, bravo. Ho detto certo, ho capito acqua, ma non ho finito il discorso. Eppure io lo sento bene, Franco! Io adesso sono sulla 131, vai! Ti sento molto molto bene! E io sempre invece oscillante, segnale, ho capito che mi senti bene, boh. Vabbè, è logico, sono in movimento. Evidentemente hai problemi tu allora, con l'antenna o col baracchino, come la fermo, boh. No, il compare dice che l'hanno preso. Il collo, c'aveva i polmoni pieni d'acqua. No, ho capito, avevo capito che sta bevendo acqua e lo sta affogando un po' meno. Invece sono quelli più, un po' più seri, dai. Cose brutte sono quelle. Però l'importante è che sia andato tutto bene, dai. E ieri oggi non si è andato a nessuna parte. No, negativo, negativo. Mia moglie stava lavorando e io niente. Ero a casa, sono fatto un giro in moto, ma niente in particolare, e poi sono rientrato. Oh, fatemi dai, ti sei deciso? Sì, sì, mi sono deciso, mi sono fatto coraggio e l'ho cavalcata di nuovo, che bello. Se non ti fai coraggio, anche io ho avuto quel sintomo anni fa, non le voglio bruciare più, ho preso una trampata brutta, mi è andata bene. Però poi mi sono fatto coraggio di nuovo e ho venuto alla moto quando piace. Non c'è niente da fare. Gappa, non ti fa, non è andato bene. La scuola di ballo è andata, lì la scuola di ballo. Qualche sera ci facciamo anche qualche cena lì a Porto Torres mio. Quando vuoi, Fra, quando vuoi, la lasciare, non c'è problema, quando vuoi me lo dici e andiamo a farci una mangiata. Sono bei locali nuovi a Porto, se dice si mangia un bel bene. Vabbè, dove? Ah, ti ricordi quello che c'era, forse ci siamo andati uno. Ci siamo andati, vabbè, una volta lì alla, vicino allo Scudo Lungo. Lì da Babai, via Sassari. No, non lo conosco. Era ex Gobbo, ti ricordi? Qua se ricorda. Non c'è più Babai, ha cambiato gestione e dice che ha perso un po' anche. Ehi, vabbè, ma è sempre di Giovanni quello lì locale oggi. Beh. Era di Giovanni Casula quel locale, il signor G. Era il signor Giovanni, non ce l'ha più il signor Giovanni. Sì, ma è sempre sua la data di gestione. Chi ce l'ha? Infatti questa nuova gestione mi ha detto mio fratello, loro sono lì tutti a Pasquetta. E ci lavora la figlia di Coso, ci lavora, che tu già lo conosci, di Giacomo, che lavora alla Tirrenia. Sì. Conosco a lui, alla figlia, sì. Ma signor G non c'entra più niente. Vabbè, io mi ricordo quel nome, poi si è cambiato sigla, non lo so, però ti ripeto, siamo tutti lì perché ci lavora la figlia di Giacomo, che sono molto amici di Antonello, di mio fratello, e quindi vanno tutti lì. E poi sono andati anche l'anno scorso, si mangiava bene. Ma non mi sa fatto, l'anno scorso c'era ancora... amici della moglie, perché siamo andati anche noi, e comunque si chiama Sopportaio, eh? E quindi hai ragione, oggi tu mi hai detto no, io non mi hai fatto la maletta, siamo la babai, quindi questo babai mi è rimasto sempre impresso, capito? Evidentemente la nuova gestione ha lasciato il simbolo, ed è meglio così, KK, e quindi fra, si può andare, sì, si può andare. Sempre Sciana è d'accordo. Sì, già convinco io, non ti preoccupare per quello. La domanda te la conterò adesso. L'altro giorno abbiamo mangiato invece Alghero, dove paghi 12 euro il giovedì sera e fai l'ape di cena, tutto a base di pesce. E è una consumazione, poi il resto le paghi. Da. Allora portami in chili, bravo. Lasciamo andare lì. Questo giorno in più abbiamo preso solo i crostini, che è 1,01 euro, ma belli col pane, i crostini di pane tostato. E le ostriche mi sa che ho 3 euro paio o l'una, quelle però non le abbiamo prese. Io vabbè già ci arrangiamo, già siamo di buona forchetta, non ci frega niente, capito? Dite là, se vuole andare me lo dici, ci mettiamo d'accordo, capito? E andiamo, così ci facciamo una carrellata, non abbiamo fatto una volta, siamo stati lì. No, lì allo Scogliungo, lo stesso vicino allo Scogliungo, avevamo mangiato bene oggi, ce l'aveva Mario Savino, con, c'era il pizzaiolo, chi c'era, cosa, Sappa, può essere oggi. Sì, ma lungo mai dici? Al Galeone. Al Galeone, sì. Sì, vabbè, c'è molti altri, ma siamo molto lunghi. Già, ci andiamo con Franco, ci andiamo, allora se mi dice il tempo bello fra, mi battimo e andiamo. Questo Alghero mi hai tenuto un po' così, 12 euro praticamente è cena. Per cena, loro aprono dalle 7 alle 10 di notte, sai che proprio aperitivo, però mangi, ci sono primi, ci sono secondi, qualcosa te la servono loro, qualcosa invece è buffet, quindi tutti gli altri, tre mangi quello che vuoi. Tu più che l'altro giorno siamo andati via verso le 9 qualcosa e stavano ancora arrivando pietanze che io ancora non avevo neanche assaggiato, tipo le cozze alla marinara hanno portato fuori. Ci picchia, è interessante questa cosa, Mettiamo subito in moto il meccanismo, fra. Giovedì però, Non lo so, che locale, come si chiama, fra? Aspetta che tanto il biglietto, aspetta. Però solo il giovedì oggi, hai capito? Il giovedì, Non il fine settimana, solo il giovedì. Insomma, io dice Franco, andate a prendere il biglietto. Non ce n'è problema oggi. Siamo tutto un coso, tutto un viaggio, andiamo tutti in pari. Oh, io non lo sento più, Che locale è, fra, dove si trova? Aspetta oggi che sennò mi sovramo durante. Come si chiama il locale, fra? Io chiedo scusa, ma no, non lo sento più purtroppo, non so in che direzione stai andando. Si chiama Ritto Pescheria, Iticomania, Cotteria, e scegli pesa e mangia addirittura. Vuol dire che fa anche diversi trattamenti durante la settimana. Ittico Pescheria si chiama. Ritto Pescheria, in che zona è di Alghero? Via degli Orti. Via degli Orti, quindi proprio di fronte al porto, diciamo, capito oggi? Ritto Pescheria. Alghero da Giudizio, no, Portore, c'è Alghero. Alghero è via degli Orti, praticamente come entri ad Alghero dovrebbe essere una delle prime a sinistra, di fronte proprio al porto, quella è via degli Orti. moglie, capito? Ci conosciamo un sacco di anni. E qualche volta siamo andati, però a Porto Torres, Alghero, Bufra, dove siamo andati? Forse alla... come si chiama lì? Qualche volta siamo andati a mangiare la pizza all'Alghero. Ma io non lo sai, a mia moglie. Volate perché Alghero già è abbastanza battuta. Dunque, io il numero 49, è una, praticamente una parallela del Lido, è un pochettino più a monte, ma un paio di traverse. Sì, via degli Orti ci abitava mia zia, la sorella di Babbo. Capito? Quindi è come tu entri da via Dominzoni, cioè dalla via d'ospedale, vai avanti alla fine del semaforo dove stringe la strada, adesso non mi ricordo se la prima o la seconda a sinistra, quella via degli Orti. Ti ricordi che c'era la Sanda prima? A destra c'era la Cisa e a sinistra c'era la Sanda? Sì, quella lì. A sinistra e poi subito la prima a destra. Ti porta fino in fondo. Sì, ma via degli Orti è lunga, non pensare che sia corta, ci può entrare anche da via 20 settembre, praticamente a destra, subito dopo lì la concessionaria delle auto, si gira a destra, ci sono una, due, tre traverse, perché lì ci abitava anche mia sorella, qui a sinistra, quindi si può prendere sia da sotto che da sopra. Sì, è così. No, non è semplice. Adesso vabbè, molti semafori li hanno tutti andando verso il porto, quindi è tutto rotatorio. E era ora che tu li hai tutti quei semafori, mamma mia, mi ero pure le scatole d'estate. Allora mia sorella stava mezz'ora in colonna, o che entravo da sotto, o che entravo da sopra, la via 20 settembre, quindi proprio dall'inizio la via 20 settembre, dove c'è il Mariotti praticamente, no? Una volta facevo da Olmedo, si entra lì dove c'è il Mariotti, e poi io salivo dall'altra parte, capito, che non passava davanti alle carceri, no? Che poi c'è il divieto, non puoi girare, i giardini, arrivano i lì. Ma un casino c'erano quei semafori. In estate anche è un casino, c'è troppa gente, c'è tu. Chi di Eugenio dove sta andando? Che zona è adesso? Eugenio sta andando a Porto Torres. Dove sei Eugenio? Lui abita lì all'ingresso di Lilioni, prima di arrivare a Porto Torres, capito? Proprio lì a Lilioni abita. No, non ti sente? No, ormai io quella parte proprio è cieca, perché io ce l'ho proprio la parte del giardino, l'antenna, quindi quella parte proprio sono coperto. L'hai perso Eugenio, perché lui c'ha l'antenna all'interno del giardino, capito? Lato giardino, non c'è lato strada, perché lui abita in via di Sicilia. Se avesse l'antenna lato strada, è una bella zona quella, si vede proprio Porto Torres. Invece c'è dall'altra parte, c'è una boomerang, capito? La boomerang è un'antenna micidiale, se non è orientata bene, che ha spazio, non riceve un accidente. Oh, l'hai già visto? Sì, lo sta guardando su Facebook. È un bel locale, no? Tu che ci sei andato, è un bel locale, fra. Sì, poi è nuovo, ha aperto qualche mese. Ha aperto addirittura qualche mese, quindi, vedi, si può testare il terreno. Sì, sa che questa settimana ci possiamo andare giù, quindi organizziamo. Se li va vedendo in lui, c'ha l'acquario tutto intorno? Così è, fra, c'ha l'acquario intorno al locale? No. Ho detto, possiamo organizzare giovedì. Questo giovedì? No, questo giovedì no, ce lo rientro io, fra. Cioè, te lo dico io, entro settimana. Per il momento io sono libero solo o il sabato o la domenica, entro settimana sono incasinato, perso. Questa settimana, ma la prossima no. Vediamo, magari sono incasinato io, che anche a noi ci stanno mattando con questi turni, guarda. Se ficcano, assumono queste guardie a barriere, a volte ci mandano a controllare questi PL privati, guarda che è un casino. Guarda, stamattina avevo visto, c'era un dirigente proprio per queste cose, perché adesso ci hanno messo tutti i telecontrolli. Cosa succede? Basta anche un basso livello, parte il telecontrollo e va in allarme. Io devo tornare indietro a controllare, magari sta tracimando. Ma cosa sta tracimando? Non sta tracimando niente. Mettetevi a posto questi telecontrolli. Ci avete messo i telecontrolli per agevolarci, e invece vanno in tilt. Ogni volta, domenica, sono tornato indietro, ho già arrivato a Sassari. Sono dovuto tornare indietro, e ci avevo, perché ce l'abbiamo il telefonino, no? Sono dovuto tornare indietro per resettare il telecontrollo, ma buffonendici. Finché non si assentano questi strumenti ti fanno uscire di testa, guarda. Ma guarda, roba romantica veramente. Quando piove vanno in alto livello e partono gli allarmi, però sta piovendo, è chiaro che il sollevamento ti va in tilt. Una giornata di sole ti fai un allarme lo stesso, ma vai in allarme, vai. Infatti l'altro giorno ci sono tornato indietro, l'ho lasciato un allarme e l'ho resettato la mattina, tanto non c'era niente, assolutamente, quindi. Sei arrivato, Eugenio? No, io ti sento, se siete troppo dottore, io ti sento, non ho problemi. È Franco che non ti riceve più, capito? Sì, sì, è così, Fra. No, ma ci organizziamo, dai, ci organizziamo. Questa cosa la teniamo in considerazione e ci organizziamo, capito? E ci organizziamo. E andiamo lì. Oppure se non ce la facciamo di giovedì, vuol dire ci facciamo fine settimana, ci abbiamo le luci. E qua dice, scegli quello che vuoi, te lo pesa, paghi e te lo cucinano. A quanto pare deve essere così anche. Che ci picchia? È una cosa, devo chiedere ai miei nipoti a vedere se sono già andati a controllare, perché loro, sai, stando in giro ad Alghero, vanno sempre a vedere queste novità. Io ne ho già sentito parlare, che c'era andata già Rosa, mia sorella, e ne aveva parlato bene, quindi. Poi abbiamo trovato anche un sacco di amici lì. Che ci picchia? Vabbè, ci organizziamo, Fra. Questo giovedì non lo so, perché mercoledì abbiamo le visite mediche di mattina. Giovedì devo portare i campionamenti, non so che la finisco. C'ho un APAS, c'ho un sacco di cose. E c'ho anche la reperibilità giovedì sera. Quindi non so se riesco a liberarmi, ma il prossimo giovedì sicuramente sì. Non so che la finisci, perché lì si... quando arrivi alle 8 va bene, dalle 8 un paio d'ore, a Puglia che mangi. Però non c'è reperibilità, se mi squilla il telefono sono ad Alghero, stai scherzando. Non fa, quando sei reperibile, già lo sai tu come funziona, ma lì mi ha fottito. Era due domeniche continue di reperibilità, però una domenica tutto tranquillo, ma ti parlo di qualche anno fa. E siamo andati al mare, tutto tranquillo. Ma seconda domenica di reperibilità, non ho fatto il tempo a arrivare a Tintino, sono dovuto tornare indietro. No, no, non mi fido a allontanarmi, Fra. No, no, pensavo che avessi un orario di te, come si dice, in termine, dai, non so, reperibile fino a tale ora. No, no, no, no, quando c'è la reperibilità io parto dal 17 al 24. No, siamo fuori allora. Per quello che sto dicendo, Fra, non fa questo giovedì. Siamo in fase di assettamento e quindi stiamo finendo delle cose. Ogni tanto me la vanno anche entro settimana, di pomeriggio, la sera, capito? Perché c'è la zona mia, non volante spostato, c'è nuovamente la zona di Marinetta, Isola Rossa, quello è tutto pieno, come ti dicevo, i telecontrolli, poi ci sono lavori in corso, prima che inizi la stagione, spero che mi consegnino tutto entro fine mese, metà maggio, perché al 30 iniziano ad aprire i due villaggi, sia la Marinetta che Torre Ruia, i due villaggi poi di Paduletta sono tutti e due pieni, apre l'acqua fantasy e quindi devo essere pronto ad avere i depuratori in ordine. Spero che l'officina si dia una mossa e quindi siamo un po' in allarme, mi sto correndo a destra e a sinistra, sto rientrando davanti e tardi la sera per quello che sto dicendo. Però a fine settimana che ho la praticamente riposo, ci possiamo organizzare. Sì, dai. Vedremo. Te lo volevo dire, la stagione è saltata, cioè la stagione qualche mese fa, la condotta lì a Olmedo, niente, si è portato via un sacco di ghiaia dall'armamento ferroviario. Sì, mi ha detto cosa, come si chiama, quello che c'è lì, il fontaniere di Alghero, sì. Ma quella non è nostra, però, quella non è nostra, quella del consorzio di bonifica. Sì, è la roba della bonifica, sì. Ma è una bella condotta, è grossa, figurati, ha sollevato masse enormi. Quella da 300, Fra, quella condotta del consorzio da 300, capito? Noi lì passiamo dietro di loro con la condotta da 150. No, questa è una condotta grossa. Tu 300 cosa intendi, millimetri? Là il tubo da 300. Ma in centimetri cosa intendi? E da 300 i tubi che abbiamo noi, quelli vecchi, sono da un metro, mini diametro. E piano di più, penso che forse sul metro è un metro e 50, 30. Allora 72 pollici, allora è quella da 600. Sono con note vecchie qua. Un metro e 50 siamo già intorno ai 72 pollici, quindi minimo è quella da 600 di linea. Addirittura quella lì è scoppiata, in la Malaga, lì alla Bogoveccia. Perché lì fa una curva, una semicurva e... era fatto a pezzi, quindi saldato, nelle saldature si è marcita la condotta, si è sparata proprio, è scoppiata, è esplosa. Sì, allora è la condotta principale del consorzio, quella che va al Torino di... del partitore praticamente, quella da 600, perché poi c'è quella da 300 per la diramazione e poi c'è la nostra che passa a fianco, ma a 50-60 metri a fianco, ma è da 150, capito? Quindi è 8-10 pollici, è piccola la nostra, perché va direttamente alla parte, la linea che parte dal portabilizzatore di coso, capito, non lo ricordo, sì, Maria Gia. Poi non so, anche trucco reale, non so cosa sia, No, quello di Albero non ha niente a che fare con trucco reale. Si è spaccato dove c'era l'acqua in pressione, tu macchina antica, si è vista questa cosa salire in aria, minimo è salita a 40 metri di altezza la pressione dell'acqua. Sì, sì, da una potenza enorme. Capo. Sì, comunque ti parlo io di 30 anni fa, anche noi eravamo, non dico ragazzi, ma quasi. Ci sono 25 anni qua, quindi parliamo della stessa era, quindi non bisogna stare molto attenti. Dove passa l'acqua, sto dicendo, Tunco Reale, per Monteoro eroga, la stazione di Monteoro, che è quella più grande che abbiamo in provincia, con due pompe verticali che sono alte 4 metri, erogano 900 litri al secondo per Sassari, che poi vanno ripartiti, sono ripartitori. E quindi però da lì escono 900 litri al secondo. Prima di arrivare al partitore, per dire, di via Milano, al partitore di Carlo Felice, o all'ex stazione di pompaggio qua della Torres, ce ne sono passaggi, e quando scoppia. Non siamo messi bene ancora a condotta, no? Siamo sempre, abbiamo un sacco di perdite, ho letto nei giornali. Stanno iniziando a diminuire tantissimo le perdite, perché ci stanno lavorando, le condotte le stanno rifacendo tutte nuove, ma soprattutto le manutenzione, ci vuole manutenzione, perché la stazione di pompaggio di Ponte Rosello è una cosa allucinante da vedere. Io che la conosco e ci ho lavorato di passaggio, naturalmente, perché non è posto da rimanerci, è completamente distrutta, cioè non. Infatti la carenza maggiore di acqua ce l'abbiamo su praticamente la parte bassa, dove sei tu, in quella zona lì. Nella zona qua dove abito io non ho mai visto mancare l'acqua. Ma manca qua, guarda, qui quando manca è perché stanno facendo lavori, che un po' per caduta qui mi scende, perché dalla parte alta forse un po' tende a scendere l'acqua, però quando fanno lavori manca, è stato un periodo anche sporca, non lo so. Ma era quel periodo che stavano facendo il lavoro di proprio la stazione di pompaggio, hanno fatto tutta la via nuova da lì, via Grazia Veneta, tutta quella zona. Però la zona della Teloce è ancora molto molto in difficoltà, no? È tutta vecchia come condotta, capito? Se non si decidono. Adesso hanno stanziato un po' di soldi, speriamo che riescano a sistemare tutto, però linea di massima, anch'io quando ero in via Pascoli ce l'avevo, magari la pressione era più bassa, però l'acqua c'era quasi sempre. Ma poi via Milano, anche quando fanno dei lavori che c'è nel giornale, chiudono, noi l'acqua ce l'abbiamo sempre, perché il vascone di via Milano rimane sempre pieno, per caduta c'è, anche se Monteoro spegne le pompe, sino a svuotarsi tutta la condotta, che sono un sacco di chilometri, il vascone continua a riempirsi, capito? Quindi non ci manca mai l'acqua. Beh, sicuramente è così, anche qua per un po' per caduta, perché a volte sento guardare l'ultimo piano che senza acqua io ce l'ho ancora, penso che sia una cosa normale. Sì, se c'è la pendenza non c'è problema. Noi negli anni che furono, prima di chiudere il Bunari, Sassi non ha mai avuto problemi, assolutamente, perché c'era sempre quella risorsa necessaria che dava la possibilità almeno alla parte un po' alta, un po' bassa di avere l'acqua. Poi hanno deciso di chiudere il Bunari, di fare un parco Mondetta, perché è nato un parco Mondetta, non è nato un parco, capito? È nato un parco Mondetta, io sono stato a poco, veramente una cosa allucinante. C'è un caseggiato favoloso, tutto è stato abbandono, i soldi pubblici buttati al vento. Ma dove hanno fatto quei locali dove si mangiava, quelli lì? Allora, tutto abbandonato. Non ci credo, io mi ricordo la ragazza andava a pescare anche, lì c'erano le carpe, le anguille, le zinche, i pesci rossi, anche dei pesci rossi, li prendevo, li portavo ai giardini, li facevo, li scappavo nella fontana. Sì, tutto è stato abbandonato, dice che il comune aveva messo a posto, tagliata l'erba, tutto ripulito, anche i caseggiati, tutto. Sono partiti in vandali, hanno fasciato tutto, è stato abbandonato. Un locale che è una cosa pazzesca, veramente bellissimo. benissimo. C'è l'agriturismo, ci sono i bungalow, guarda, c'è di tutto, parco di divertimenti, tutto. Tutto è stato di abbandono. Che peccato. Quindi la riga non è secca adesso, è aperta praticamente. Sì, sì, l'avevamo anche bonificata. Siamo stati un anno bonificando quel posto, un anno. Perché poi volevano far nascere un coso artificiale, dai, di acqua piovana, ma qui ci sono riusciti a fare. Ma la parte in cemento c'è ancora, la riga in cemento c'è ancora o l'hanno demolita? No, quella era rimasta fino a quando avevano fatto quei lavori, poi non lo so perché non ci sono più andato. Non lo so se l'hanno demolita o l'hanno praticamente chiusa, nel senso che l'hanno riempita. Non lo so, io mi ricordo l'ultima volta l'acqua non ce n'era più, io sono arrivato, c'era una pozza di acqua proprio vicino alla barriera di cemento e basta, ma l'acqua stava già terminando del tutto. Non sono più andato fra, quindi non so esattamente come hanno ultimato i lavori. Quando c'ero io la stavano bonificando, stavano togliendo addirittura, hanno smontato anche la trattore di pompaggio, diciamo delle bellissime pompe che potevano essere utili facendo un sistema di acqua piovana, un accumulo di acqua piovana nel caso era necessario attaccare le pompe e mandare su via Milano, come era un tempo, capito, il vascone che c'è via Milano. Invece hanno bucato pure la stazione di pompaggio, hanno dismesso. Infatti, tanto l'acqua che abbiamo è molta. Non viene a beccare una, no? Se non piove, siamo ancora a bassi livelli. Il livello sta abbassando, ma non è abbassato. Mancano già 10 milioni di metri cubi. Se non piove, siamo fottiti. Allora fate la cosa, la faccio la pasquetta come ogni anno. Non lo so, fra, non lo so, però dice che c'è una perturbazione in arrivo, non so se, spero di no, io già sto lavorando, mi sono messo proprio a lavoro, perché potevo decidere, lavorare Pasqua o lavorare Pasquetta, questa dirigente a me mi metta sia Pasqua che Pasquetta, tanto io a Pasqua faccio alle 7 a mezzogiorno, a Pasquetta faccio alle 7 alle 11, arrivederci e buon viaggio. No, io ho chiesto il sabato ferie, però mi vuole incassare il giorno di Pasquetta, ma io ho detto guarda che sono fuori, non ci sono, quindi no. Adesso vediamo se mi incassa, la se non mi toccherà mettermi, no, non lo diciamo, là. No, non ti preoccupare, io non ho quell'esigenza, perché la verità non devo andare a nessun posto, fra stare così a destra a sinistra, non fatto la matta, andiamo, facciamo, ok, andiamo, però io di mattina me ne vado, mi alzo presto, me ne vado, faccio uscire il controllo, e c'ho anche la maggiorazione, quindi me la prendo, tanto ti ripeto, faccio dalle 7 a mezzogiorno, domenica di Pasqua, siamo a prendere a casa, o forse siamo la mia cognata qua in via Pietronini, qua insomma vicino a casa per salire a Usi. E poi a Pasquetta, che se devi andare a Praga, non ando a Londra, diciamo, quindi, perciò mi faccio lo stesso dalle 7 a mezzogiorno, arrivo a casa, mi cambio, mi lavo e poi esco. Io va bene così, no, a me vorrei casare proprio a Pasquetta, non faccio, sono anche un po' lontano, non posso rientrare il giorno di Pasquetta. E comunque la messa, la perturbazione sul sito del metro c'è. C'è pioggia sparsa, non tantissima, però c'è. Intanto le pasquette che facevamo una volta erano in campagna, no? L'aperto, picnic, capito? Adesso invece di usare l'agriturismo, mangi, bevi e te la futti. Se sta piovendo fuori, che ce la futti. Sì, ma c'è bello, che lì siamo in zona di mare, magari mi lancio anche due canne, mi fa bel tempo. Ah, per quello, No, io l'ho mollato. Andavo a pescare i migiani, ero più rumor là spesso, infatti mi hanno insegnato un po' lui a pescare, poi non siamo più andati, però l'estate è tempo bello, la sera mi ci sto in radio, con Rugato che fa, aiuto, ci insegniamo a Porto Torres lì, due berrette fresche, lanciamo, aspettiamo, e intanto ci mangiamo un panino, una birrettina e via. No, adesso mio collega mi sta portando a mare di fuori verso l'Argentina, però adesso sono state brutte da fare poi all'ultimo pezzo a piedi perché manco i grappi. E lì quando c'è mareggiata come della schiuma, asparagi e occhiate, come da cantare, come si chiamano in italiano quel coso. Ma non me ne dia a me, con Gianni di novità. No, no, no, c'è da fare un lavoro, allora mi ha detto a casa fra. Io devo andare a arrivare lì con la macchina, a prendere il mio seggiolino, mi siedo, mangio, mi rettino a fresco, a quest'ora lì, al fresco, così, se ne mi piace, andavamo spesso con Gianni, capito? Andavamo. E basta, devo essere rilassato, capito? No, se c'è da fare un lavoro, se tu paghi che strada, no, no, no, non è per me. Insomma, forse mio, questa macchina con fuori strada riesco a scendersi, forse, non so a salire, ma a scendere sì. Ehi, a salire già venne il trattore chi vivrà. Insomma, no, non so neanche perché non ne ho visto in zona trattore, qualche mucca passa di tanto. Ma giù all'Argentina proprio dove c'era la... giù, in fondo, dove c'era quel chiosco. No, no, noi andiamo da Fatto San Nicola, facciamo un paio di chilometri, 4-5, poi giriamo a destra, entriamo in una campagna, in un pastore, apriamo un paio di cancelli e si porta fino al cortone dove c'è a strapiombo proprio. Cancello, allora entri dove c'è il coso del consorzio. Cancelli in legno sono legati a corda. Perché lì per andare a Palmavola tu passi. Ma oh, da Fatto San Nicola fai pochi chilometri e poi giri in un viotto alla destra e fai questi. Io neanche lo conoscevo, mi porta questo qua, guarda. Perché per andare lì agli strapiombi, se poi c'è la spiaggia lì della del coso, come si chiama? Non mi ricordo, c'è un nome. E lì praticamente se passi appunto da Porto San Nicola, prendi la strada per Palmavola, subito dopo qualche chilometro giri a destra, lì c'è il coso di consorzio, fai tutta la strada all'interno e ti porta giù agli strapiombi. Non ho visto niente di pompaggio, non ho visto niente. Mi ricordo questi cancelli, poi c'è una casetta con le finestre azzurre, che l'affittano anche d'estate con qualche tedesco, ma una casetta sperduta proprio in mezzo alla campagna, non c'è nulla. Io quando vado lì lì spesso insomma c'è questo ingresso con sono dei blocchi in cemento e c'è scritto consorzio di bonifica della Nurra. Entro lì, vado sino a giù e ti porta sino agli strapiombi. Non lo so, no, sicuramente non è quello, perché no, l'avrei letto questa parte, no, non c'è, sono campagne di pastori sono. Ho capito, allora deve essere più avanti quello che sto dicendo io. Va bene, fra le 9:10 sono, vado a cenare che mi fanno accenno. Qua a casa ti salutano tutti, ok? Salutami Anna, poi ci aggiorniamo e vediamo un po' di organizzarci, ok? Tu digli all'Anna che l'hai detto a me e fammi sapere. Io ho già tutto organizzato, così non può dire di no. Comunque ricambia, saluti e un abbraccio a tutta la famiglia. Grazie, fra, altrettanto a voi, dai. Tu dite che è tutto brutto, di non rompere l'anima, ciao. Ciao a tutti, ciao. Ciao, fra, ciao.